1. Eccoci tornati, tornatissimi. Ma che bel posto è la radio. Ma che bel posto è la radio, soprattutto quando i Dream Team si rincontrano. Madonna, è meraviglioso. È meraviglioso soprattutto perché io non c'ero. Esatto, esatto. Ma oggi abbiamo anche una special guest che ci degna della sua presenza, perché ha paura che lo importuniamo al telefono. Quindi ha detto vado lì, così non mi possono chiamare, ma noi lo chiameremo anche qua. Ma infatti c'è una parte di me che un po' si sente il terzo incomodo, ma in realtà è un terzo che già faceva parte alla fine, visto che... Oh, è già riuscito a essere noioso. È già riuscito a essere noioso. Ma non abbiamo neanche cominciato. Se volete me ne vado, eh. No, comunque, per dirti qua a che livello siamo proprio in zona rossa, stavo cercando il telefono per chiamare il nostro social media manager e dirgli oh, pompa un po' la diretta, che siamo in diretta. E avevo il telefono davanti a me. No, ma è così. La radio spiazza, la radio bella. Proprio per questo siamo qua. Vi ricordiamo che i programmi vanno avanti nonostante la pausa estiva. Ormai siamo a settembre, quindi diciamo che la redazione si troverà questa domenica per intraprendere quello che sarà il nuovo percorso della radio durante l'inverno. Quindi nuovi programmi, nuova gente, bellissima gente. Ti immagini un inverno in radio? Non noi. Esatto, non noi sicuramente. Io non ci sarò mai, per cui queste cose non saranno un problema. Ma allora tra pochissimo vi leggeremo l'incipit, perché stasera parliamo di Reddit. Nel frattempo si sente? Devo alzare il volume. Noi entriamo a gamba tesa ancora prima della sigla con le telefonate. Poi magari diventa l'ennesima puntata in cui risponde la Vodafone. Pronto? Ciao Riccardo. Ciao Gulli, mi sali dalla discussione spinosa con Rachele. Grazie per avermi chiamato adesso. Non ho capito, scusami. Mi stai salvando dalla discussione con Rachele, grazie. Molto bene, chiamato. Molto bene. Allora non... Comprare una pianta o comprare un figlio? Comprare una pianta o comprare un figlio? Nel caso in cui dovesse bucarsi un preservativo. Vabbè, ma... Mamma mia, che robe trucci! Basta, ragazzi, non parliamo più di Reddit stasera in radio, perché sì, sei live in radio, mentre io tocco il microfono. Live in radio, ciao Riccardo! Ciao Ricky! Aia. Senti, male. Ma ascolta, invece di fare discussioni... Aspetta, metto via la voce. Bravo. Camano, sentiamo cosa intelligente da Rachele, che da parte tua sarà difficile a sentirlo. Ci sei? Tu ci metti a mettere... Aspetta, se non sentiamo niente. No, praticamente sta facendo insegnare a Rachele dicendo no, no, fai, inventa una scusa, fai finta. Buca un preservativo, fai, no. Rachele, buca un preservativo. Buca un preservativo. Potremmo fare una puntata dedicata soltanto a questo tema. Mamma mia. Chi siete? Chi c'è lì? Chi c'è? Ma a parte il fatto che quest'ora lei non deve sapere niente. C'era Cico che voleva chiederti una cosa. Io le volevo chiedere bomba dagliacca. Prego, Cico, indica pure. Ma dove sei? In autostrada? Mamma mia. Siamo in autostrada, sì. Può pompare un po' la diretta? Provinciale. Se può pompare un po' la diretta. Pompare un po' la diretta? Io in questo momento non prende benissimo il cellulare con internet, però ci posso provare. Aia. Bene, posso fare una cosa del genere. Ma poi possiamo capire dove sei finito, scusa? Dove siete finiti? Noi siamo all'isola d'Elba. All'isola d'Elba, quindi stamattina mi hai perculato. Ad Acquarilli. A spiaggia dei nudisti. No, sto male, che figata, bellissimo. Possiamo chiudere subito la telefonata per eccesso di fricchettonaggio. Esatto. Va bene, caro, ti lasciamo alle tue cubrazioni su questioni spinose. Noi adesso leggeremo una cosa bellissima. Se magari tu ti allontani dall'autostrada e ascolti Radio ZM, sarebbe bello. No, ma penso che ci siamo. Come stanno procedendo i lavori? Che magari qualche ascoltatore vuole venire ad aiutare in questi giorni. Dai, ma no, volevo passare la parola a qualcuno, ma in realtà giustamente Lorenzo ha lavorato tutto il giorno e Cigo è una carogna, non è venuto. Sì, a Zan. Carogna, fai schifo. No, ma tra gli ascoltatori e le ascoltatrici, non detto che deve essere gente lavori che è radio. Procedono bene, perché oggi c'è stato il comunismo e grazie all'eroe della nazione, l'infermiere Nils, che ha guidato la carica, è stato fatto un passo in avanti. Attenzione. Meraviglioso, bellissimo. Ale Nils, dopo lo chiamiamo. Continua. Ma invece Rachele ci dice una cosa intelligente? Tu che puoi? Aspetta, te la passo. Una sola, Pronto? Ciao Rachele, come stai? Tutto bene. Sei tutta nuda? No. Ah, ok, non siete in una specie di nudisti, scusa. No, l'abbiamo appena lasciata. Guarda che se rimanete vestiti in una specie di nudisti si incazzano, Perché? Perché tu sei vestita e potresti passare per guardona. No. Ma comunque okay. Era pieno di bambini con genitori vestiti che si guardavano attorno. Okay. Era proprio una situazione. Perché quest'anno era un po' una situazione un po' così. L'anno scorso era proprio tutti nudi. Ok, lo chiedevo perché noi lo siamo invece. Comunque andiamo avanti. Volevo dire una cosa, ma raccontami un po', perché da quello che ho capito avete fatto un bel giro in queste settimane. Allora siamo andati. L'ha fatto qualcun altro il giro? L'ha fatto lei, non c'era? Era Riccardo, no, con l'altra. No, l'ha fatto Davide, Martina, io e Riccardo. Eravamo noi quattro e ci siamo persi un po' nella tuscia. Ah, bel posto. Chi non ha una tuscia in casa, mi verrebbe da dire. E quando avete intenzione di tornare alla Magione? Si discuteva del fatto di tornare prima o poi. No, torneremo fra una settimana, dai. Ma perché vi stiamo già mancando? A me tantissimo, più te che Riccardo. Vero. Non so come mai. Confermo, Cigo? Sottoscrivo. Bene, grazie Riccardo, rimani lì. Ma Riccardo non vi sto sentendo. Peccato. Ma tu riporterai tutto a Riccardo, sono sicuro. Va bene. Se no ci sono la registrazione. Dopo sentiremo la diretta registrata. La diretta registrata, certo, sì, esatto, sì, sentirei quanto ti ha infamato prima che ti passasse il telefono. Esatto. Però esatto, ti vuole bene. Va bene, grazie Rachele, grazie Riccardo, è stato bellissimo. Ciao bellezze. Vi vogliamo tanto bene. Quale sarà la mia cuffia per alzare il volume? Cerca. Cercherò, ogni tanto ci stordisci un pochino. No, sì. L'ho beccata primo colpo. Vi penseremo domani quando saremo alle piscine, una tipica spiaggia ilvana dove ci sono delle piscine naturali. Oh mio Dio santo, ma mandaci delle foto. A Rachele piace poco l'Elba, evidentemente. Sì, però esatto. Vi mandiamo le foto. Sì, io le voglio le foto. Le foto le voglio. Che belle le foto. Ti ha infettato con la sua malattia. Va bene. Comunque io la ringrazierei, Rachele, visto che noi siamo qua a Milano, loro sono all'isola d'Elba. Esatto. E non ce la fanno pesare. No, per niente, perché mai? Si sta così bene qua tutti nudi. Merda. Comunque, grazie Rachele, e io dico che Zona Rossa non è Zona Rossa senza la sigla di Zona Rossa. Vai. Quindi mettiamo la sigla e rompiamo il ghiaccio tutta per voi. Ciao Rache. Ale, ciao. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Sono un ragazzo etero, tra i 21 e i 25 anni, e due anni fa, agosto 2018, decisi che da lì in poi avrei registrato la data e ora di tutte le mie eiaculazioni. Circa due anni fa ritornai single e, un po' per il mio aspetto fisico, un po' per il mio carattere, non ho avuto rapporti sessuali con nessuna ragazza durante questi due anni. Per la mia vita sessuale questo potrebbe essere un aspetto limitante, ma per questo studio invece si tratta di un'ottima condizione, perché permette di osservare le mie abitudini onanistiche senza alcuna interferenza esterna di natura sessuale. Mi sono dimenticato di fare un post a inizio 2020, con i dati del 2019, quindi lo faccio ora, con i dati riferiti a un arco temporale di due anni, ma a cavallo tra il 1 agosto 2018 e il 31 luglio 2020. Raccolta dati. Come anticipato, i dati si limitano al timestamp approssimativo di ciascuna eiaculazione, cioè all'istante finale di ciascun atto. Ho deciso di registrare solo l'istante finale perché registrare anche quello di inizio sarebbe stato problematico. Se per la maggior parte delle volte è chiaro, per molte altre invece è difficile da definire e quantificare, senza contare che a volte mi interrompo e finisco, o a volte no, in un secondo momento. Inoltre, volevo far sì che questa attività interferisse il meno possibile con il mio comportamento, e registrare o tenere a mente il tempo di inizio in qualche modo mi avrebbe condizionato nel portare a termine l'atto, o almeno credo. Viceversa, registrare l'evento ex post mi ha finora permesso di tenere la mente libera da condizionamenti, sia prima sia durante l'atto, ma ne consegue che è stato possibile determinare con certa precisione solo l'istante finale. Per comodità, per salvare il timestamp, mi sono servito di una tabella gestita con un PHP MyAdmin che ho a disposizione. I dati sono stati spesso registrati subito o quasi subito dopo l'atto. E quando invece non avevo portata di mano lo smartphone e PC, ho registrato il timestamp più o meno approssimativo in un secondo momento. Non sono ancora un automa al 100%, quindi è probabile che abbia saltato qualche registrazione, ma sono abbastanza sicuro che il 99% circa degli eventi è stato registrato, anche grazie alla facilità con cui è possibile inserire dati. Grafici dei dati. Veniamo alla parte interessante. Per fare i grafici ho usato Python con Pandas, Matplotlib e Calmap, ma per la calendar heatmap. Nel calendar heatmap in stile GitHub ho riportato le frequenze assolute sui giorni, invece per quanto riguarda gli orari ho riportato le frequenze relative al massimo di quell'anno. calendarheatmap.png, segue il link. Ho riportato le frequenze relative nel quadrante degli orari perché non ho lo stesso numero di mesi misurati per ogni anno, e poi mi sembrava più sensato mostrare gli orari con massima e minima intensità per ciascun anno. Il quadro è il seguente. Quasi ogni giorno mi tiro almeno una o due manovelle, con una media di 1.71 al giorno e 11.9 alla settimana, calcolati sugli ultimi due anni. Le mediane sono rispettivamente 2 e 12. I 117 giorni in cui sono stato digiuno sono stati controbilanciati da 170 giorni in cui ho fatto 3 o più manovre. Ricordo a maggio 2019 con 7 rasponi in 24 ore, seguiti da un giorno di riposo. Come segnala il quadrante degli orari, non ho una vera e propria routine, ma può capitare più o meno a qualunque ora e a qualunque giorno della settimana. L'unica eccezione è l'orario di cena, che è sempre più o meno lo stesso. Quindi, per ovvie ragioni, gli eventi sono più rari intorno a quella fascia. Gli eventi sono leggermente più frequenti la sera dopo le 22, ma nel 2020, anche a causa del lockdown, tengono ad essere spalmati più uniformemente su tutte le 24 ore, anche ad orari più improbabili della notte. Secondo un'altra prospettiva, è possibile vedere il tempo trascorso tra un evento e il suo successivo, che ho messo in questo Instagram. L'intervallo minimo di astinenza è stato circa mezz'ora, ma una volta sono riuscito a tenermi per quasi 4 giorni di fila. Il 50% degli eventi si avviene... L'intervallo minimo di astinenza, abbiamo già letto, il 50% degli eventi avviene entro circa 10 ore dal precedente, l'85% si verifica entro 24 ore dal precedente, solo il 2,5% si verifica dopo 2 giorni, in media tra due eventi passano 14 ore circa. Questo è l'andamento settimanale, segue link. A parte il leggero picco durante la seconda metà del 2019, tra 2018 e 2020 non mi sembra ci sia stato un calo di frequenza. Confrontandomi con altri, ho sempre avuto l'idea di avere un ritmo pari o leggermente superiore alla media. Questa convinzione era anche basata sulla sensazione che masturbarmi in media due o più volte al giorno. Visto però che le sensazioni su se stessi a volte sono incoerenti e esagerate, ho deciso in questa istanza di suffragarle con i dati. La mia stima era leggermente in eccesso, ma non troppo distante dalla realtà. Rispetto alla community di Air Italy, dove mi alloco, per capire questo bisogno di una vostra mano. C'è da dire infine che tra una sega e l'altra in questi due anni ho anche trovato il tempo di frequentare l'università e finire la triennale, farmi qualche viaggio, uscire normalmente con amici e altra gente. Quindi per ora non sento la necessità di frenare i miei impulsi, ma sono ben disposto ad accogliere eventuali consigli o indicazioni. Ragazzi, Questo è l'incipit migliore per entrare nel mondo di Reddit. Io mi sto commuovendo, giuro, veramente. Poi ha parlato di masturbazione tutto il tempo, cioè ti rendi conto? Comunque, se devo essere sincero, mi sa, io conosco un amico che lo batte. Sì, però è un amico molto intimo. Però non può battere la sua ferrea disciplina nella raccolta dei dati. Quello no, assolutamente. È una cosa meravigliosa. È una cosa meravigliosa. Poi non riesco neanche a immaginare la sfilza di commenti che avrei letto sotto questo. No, i commenti allora sono mitici, però a questo punto ci costringiamo a parlare qualcosa di Reddit, esatto. Vengono aperte delle fonti perché ovviamente c'è un vastissimo pubblico che sicuramente conoscerà Reddit, ma secondo me c'è anche un altro vastissimo pubblico che non lo conoscerà. Quindi cito testé Wikipedia. Aspetta però, perché prima voglio anticiparti con una frase. Perché Reddit è il social media dei presi bene. Ora leggi pure, ma essenzialmente è questa. Quindi anche Wikipedia riporta la citazione di Guglielmo Corradi, tra virgolette, c'è scritto qua: presi bene. Presi bene, esatto, quello in eretto. Reddit, reso graficamente come Reddit, è un sito internet di social news, intrattenimento e forum, dove gli utenti registrati, chiamati Redditor, possono pubblicare contenuti sotto forma di post testuali o di collegamenti ipertestuali, ovvero i link. Gli utenti, inoltre, possono attribuire una valutazione su o giù, comunemente chiamati in inglese upvote o downvote, ai contenuti pubblicati. Tale valutazione determinano poi posizione e visibilità dei vari contenuti sulle pagine del sito. I contenuti del sito sono organizzati in aree di interesse chiamate subreddit. Secondo Alexa, Internet, a febbraio 2018 contava 542 milioni di utenti al mese, rendendolo il terzo sito più visitato negli States e il sesto a livello mondiale. Benissimo. È una bomba, ragazzi. Allora, cioè, vi racconto la mia breve esperienza su Reddit, che mi è stata guidata dal mio fratello minore, che poi chiameremo in puntata perché se lo merita di brutto. Mi fa: fatti Reddit che è una bomba. Cioè, allora, come funziona? Giustamente, come ha appena detto Lorenzo, tu hai delle stanze, quindi non hai il tuo profilo, non puoi fare le figate del tuo profilo. Sì, puoi metterti la tua fotina eccetera, ma la gente non segue il tuo profilo. La gente segue le stanze di discussione che sono per temi. E cioè, secondo livello, che è la cosa che a me fa esplodere il cervello, perché non è determinata da una questione, come dire, di funzionamento, ma è di cultura di chi lo frequenta, è il social dei nerd presi bene. Cioè, tu vai a leggere anche i post dove c'è la roba un po' più greve, foto di nudo, e c'è la gente presa bene, tipo: grande, brava, hai perso 10 kg in 20 giorni, ma sei fortissima, complimenti, continua così, perché non senti il nutrizionista? L'altra risposta: ah, ci ho provato anch'io, ho fatto molta fatica, tu come hai fatto? Cioè, sono tutti presi bene. E poi ovviamente c'è gli argomenti. Io sono in tutti i gruppi, tipo, c'è un gruppo che si chiama Electrician, sono solo foto di elettricisti che fanno le foto ai quadri elettrici sbagliati. Stavo per chiedere esattamente quali erano le prime categorie, le prime room in cui eri finito, ragazzi. Mi hai già risposto: construction, woodworking, electrician, tools porn. Cioè, ma della gente che pubblica delle robe. C'è un thread di questo, cosa si chiama, woodworking, che sono solo carpentieri americani, e c'è un post che ha 320 commenti su come si fa, come ci si sistema la cintura per gli attrezzi. Quindi ripetiamo, fammi capire, perché io non lo conosco, o meglio, lo conosco solo perché quando io faccio una domanda a Google, molto spesso ultimamente la risposta è su Reddit. Davvero incredibile. Cioè, io cerco magari come cambiare quella RAM di quel tipo di, perché ovviamente i nerd arrivano a fare anche quello, anzi sono molto predisposti a fare anche hacking eccetera. E in tutto questo però mi chiedevo: ma io non posso quindi mettere la fotina che mangio il panino? Perché posso mettere, come ho letto da Wikipedia, un post con dei testi o dei collegamenti ipertestuali, dei link. Basta, fine. Cioè, no, tu puoi, come si dice, pubblicare robe tue, ma okay, la gente ci finirà soltanto se viene a cercare esattamente te, se no semplicemente sparisci. Quindi, secondo me, a livello di sistema, se non erro, toglie molto la questione del protagonismo personale. Ma infatti ti capita molto poco di finire sul profilo della persona. Esatto. Ti capita e non hai, come Facebook, cioè se hai la tua home dove scrollano le robe, ma tu vedi i gruppi in cui sei voluto entrare. Infatti, tra l'altro, Wikipedia non lo definisce come social network, ma come social news, che è diverso. Per esempio, sono dentro le altre grandi passioni, sono, cioè, proprio sto sfogliando la mia home di Reddit. Quando vuole questo soprammobile chiamato Cigo può anche dire qualcosa, quando voglia. Oh mio Dio, è arrivato, scusate, apro una parentesi, la chiudo al volo, è arrivato un messaggio sulla chat che ricordiamo. Oh my God. La chat di Radio ZM Telegram, la trovate con @ Radio Zam _chat _chat, scusate, tentenno, ma Gulli, leggi. Sono positivo. No. Silvio positivo al Covid. Silvio positivo al Covid. Chiusa parentesi. Cambia tutto, vai, parliamo sotto. Chiusa parentesi, vai. Bomba. Bomba. Vabbè, sulla mia home, io dove sono? In che gruppi sono? Sono in un gruppo, in un subreddit che si chiama Geopolitics. Perfetto. Quindi sta parlando in questo momento, sta parlando tipo di un conflitto, perché ci sono degli, si sono, China is ahead in ship missile and air defense tech. Fantastico. Praticamente sta dicendo che la Cina sta superando gli Stati Uniti d'America per quanto riguarda la tecnologia militare. E Silvio al Covid. Subito sotto, partecipa a un sottogruppo che parla soltanto di affilare coltelli. Sto male. Si chiama Sharpening e sono solo foto di attrezzi, di tecniche per affilare coltelli. Poi c'è questa cosa qui che si chiama un po' più generalista, si chiama Interesting as Fuck, e ci sono soltanto foto di roba allucinante, tipo in questo momento c'è una pietra multicolore bellissima a specchio. C'è un altro gruppo che si chiama Knife Making, cioè c'è gente che sto fa coltelli male. Da soli. Poi cosa c'è d'altro? Beh, vari gruppi dove ci sono cose che forse è meglio non commentare qui, perché, voglio dire, sono contenuti abbastanza chiari, no? Ci siamo capiti. E, scusa, te faccio vedere dopo. Se noi fossimo un programma serio, sì, inizierei, sì, esatto. Non mi ricordo il nonno di chi diceva che con i se, con i ma, prima dei se e ma, non cioè dopo i non se vale ma non vale niente, però lo dico lo stesso. Se fossimo un programma serio, io inizierei a parlarvi di Bin Chul Han, che è un filosofo coreano, che ha scritto un libro molto interessante che si chiama Lo sciame digitale, e qui evidenzia proprio due tipi di figure differenti di membri e persone che popolano il web. Con l'avvento dei social network c'è stato tutto il discorso della personalizzazione, eccetera, mentre invece Reddit richiama quella che è l'idea del vecchio forum, ovvero io non ho bisogno di mettere per forza, o meglio, il sito non mi chiede obbligatoriamente di mettere nome, cognome, data di nascita, te lo chiede, ma tu puoi scrivere tu com'è, non è il tuo nome utente com'è. Sì, no, è TKMK. Capisci? Quindi tu hai il permesso di essere, tra virgolette, anonimo, sì, sì, o di ricoprire quello che è un alter ego, non per forza la tua proiezione. E quindi c'è meno la smania di personalizzazione del profilo e diventa tutto lì. Diventa tutto quello che puoi fare esattamente con il sito, non diventa la mia pagina, le mie foto, i miei tag e tutto il mio diario. Sei bardato su internet, in pratica. Minchia, lui c'ha sempre questo riferimento. Ripeti, perché avevi un volume che non si sentiva. Dicevo che si è bardati su internet alla fine. Esattamente. Fondamentalmente sì, quindi da un certo punto di vista può essere anche molto pericoloso. Io so per certo che un sacco di diciamo discorsi che su Facebook vengono affrontati in modo diverso, su Reddit vengono affrontati in modo molto più intenso. Se su Facebook assistiamo a quella che è il fenomeno, ripeto, non siamo un programma serio, questa è una parentesi. Certo. Se su Facebook assistiamo al fenomeno della shitstorm, che cos'è la shitstorm? È quando voi vedete un post su Facebook e una sfilza di commenti che supera l'umana capacità di leggerli e trovare una sintesi. Mentre invece, secondo me, su Reddit si ha ancora la capacità di riuscire ad avere quella cosa che permette a tutti gli utenti di esprimersi e di non uscire fuori nella shitstorm e di raggiungere magari qualcosa. Cioè, che poi comunque ne avvengono di conflitti anche a livello dei commenti, eccetera. Io, uno dei primi post che ho visto, c'erano questi qua che hanno iniziato a litigare, evidentemente, perché uno ha pubblicato la foto di un suo lavoro. Si parlava di un altro gruppo meraviglioso che si chiama Welding, cioè si parla solo di saldature. È meraviglioso, foto di saldature ovunque. E praticamente a un certo punto, cosa ne pensate? Uno sotto gli ha risposto: sì, però se lo facevi per un lavoro pagato, secondo me il cliente non ti doveva pagare. E allora ha iniziato un po' a insultarsi. Però scrollando in generale i 30-40 commenti, erano tutti un ma hai fatto così, hai fatto cos'ha, ma come si è comportato, però effettivamente lì è fatto bene, ma lì no. Però in generale comunque, cioè, se fai anche magari analizzandoli tutti davvero, cioè 29 commenti erano pro ed erano anche se critici costruttivi, mentre uno solo era per rompergli i coglioni. Poi tenete conto che adesso noi andiamo avanti a chiacchierare di quella che è la nostra esperienza di Reddit, poi vi chiamiamo e vi chiediamo la vostra, quindi tenetevi pronti. La mia esperienza su Reddit devo dire che è un po' quella dello spione, mi spiego meglio. Se io avessi Reddit, sicuramente una delle prime room in cui entrerei è quella dei videogiochi, essendo un non tanto un giocatore ma una persona molto appassionata. E vi assicuro che Reddit per l'ambito dei videogiochi è proprio cazzutissimo. Vi faccio un esempio. L'altro ieri c'è stato questo momento di shock nel mondo del gaming, perché un quello che viene chiamato un cheat, o una persona che utilizza i codici per giocare ai videogiochi, quindi come in GTA ti metti tutti i soldi, uno che eccetera, bara. Uno che bara, si stava facendo una diretta su Twitch e mentre si vantava di essere il più forte del mondo ha condiviso lo schermo e si vedeva il codice di fianco, come un babbo. Ha fatto la figura del pirla, ma ha violato quella che è la regola peggiore di utilizzare i codici, e oltre a quello si è anche pavoneggiato. E tutto questo è finito su Reddit. Io l'ho scoperto solo perché ho visto un post su Facebook che mi ha rimandato a Reddit. Stessa cosa è successa quando ho... No, questa me la sono dimenticata. Vai avanti. Vabbè, allora, giusto perché era l'esperimento che volevo fare. Su, se tu dobbiamo scrivere videogam, quindi non ho nemmeno finito di scrivere la parola, troviamo su Reddit 5 subreddit, di cui ne abbiamo uno con 112.000 membri, che si chiama Video Game Donkey, e invece che secondo me è uno molto più interessante, con solo 23.000 membri, che si chiama Video Game Science. Oddio. Che secondo me deve essere una manata, perché deve essere tutte le robe, tipo i calcoli che fanno per capire come fare le robe. Sì, assolutamente. Ci siamo entrati e sarebbe bello riuscire a vedere un pochino di questi posticini carini. Cioè, dei post carini che ci sono qua. E adesso, ovviamente, in questo momento non mi riesce di capire che cazzo fare, però... Sonic Mania a masterclass in blending. Old ideas with fresh design. Cioè, praticamente stanno rifacendo la veste grafica di Sonic... ma con la meccanica di gioco nuova. Sto male. Bellissimo. Mamma mia. Anzi, anche, scusate. Allora, questa cosa è molto pericolosa, perché in Italia un po' meno, ma per esempio in Giappone esiste un fenomeno molto ricorrente da diversi anni, che è quello degli hikikomori, ovvero ci sono delle persone che, piuttosto che vivere la first life, come si chiama, vivono la second life. Infatti poi c'è stato anche un videogioco inventato su questo... Sì, esatto. È un po' l'evoluzione di The Sims. Insomma, ci si crea un'entità digitale un po'... per pigrizia, un po' per misantropia probabilmente, perché si preferisce rapportarsi a una tastiera e uno schermo, e questo può ricadere ovviamente nel chiudersi in casa e avere una seconda vita lì. Come si media questa cosa? Io, la mia esperienza da adolescenziale, che è in un paese di campagna, al lago, dove effettivamente eravamo quelli che eravamo, io ho avuto molti amici che negli anni, vivendo i forum, poi hanno incontrato le persone che hanno conosciuto sui forum nella realtà, e creano dei gruppi in cui magari fanno i viaggi, eccetera, quindi... esiste una via di mezzo. Chi utilizza Reddit o altri forum non per forza di cose finisce a fare l'hikikomori, tant'è che Guglielmo non penso che domani sparirà e finirà soltanto su Reddit, o almeno mi auguro. Ma che... Ma peraltro non c'ho cazzo da dire su Reddit, sono un incapace, moltiplica le foto dei circuiti, cioè dei circuiti elettrici, dei quadri elettrici fatti bene, no, cioè quelle ce le ho, quindi potrei fare tipo è colpa mia, è stato io. Cigo, dici vai. Tu a che categoria, a che room entreresti? Dici un tu argomento, entri su Reddit e tu scimmia tua. La prima room che cerchi, io l'ho detta. Guarda, videogiochi. Sì, allora non me penso malissimo. È una domanda difficile in realtà. È quella che faremo a tutti i nostri ascoltatori che andiamo a chiamare. Cosa ho visto? Niente, Guglielmo sta sbrodolando. No, male. Sto malendo. Allora, volevo aiutare il buon Cigo, e quindi ho detto, beh, lui studia scienza della comunicazione, andiamo a cercare qualcosa sulla comunicazione su Reddit, chissà quanti bei posti che spiegano. Però la questione è che c'è una parola che ha la stessa desinenza di comunicazione, ed è comunismo. Raga, ho scritto comu, esatto. Mi sono saltati fuori i subreddit sul comunismo. Raga, mi sto per iscrivere a tutto. Cioè, è troppo bello. È quello, vedi? Direi che probabilmente, però non essendo nerdone io, e non essendo appassionato di costruzioni, certo, e cose simili, forse qualcosa di politico sarei andato a cercarlo. No, io sono una persona infima e veramente disgustosa, e sono i videogiochi e i manga giapponesi, una delle prime due room in cui sarei finito, per perdermi male probabilmente, no? Per disintossicarmi un mese dopo. Certo. Allora, c'è un profilo però che si chiama Communication, ma non sembra essere molto, molto efficace, non si capisce una mazza di quello che vuole fare. Dai, dici una tua passione, che andiamo a cercare su Reddit, insomma. Oppure un hashtag antifa, che ne so, quello che ti pare. Forse qualcosa legato al videomaking. Attenzione! Video game dunk, video editing, 122.000. Quelli saranno, sai come si chiamano quelle persone, almeno in Italia, gli ammaccabottoni. I montatori, perché molto spesso più che operatori sono montatori quelli che si confrontano online, sono gli ammaccabottoni. L'operatore non ha tempo di stare al computer, l'operatore è in giro per il mondo a filmare, poi dà tutto al montatore che deve spaccarsi l'anima su Premiere o altri software simili, e vi assicuro che il dibattito su internet è accesissimo. È tanto bello quanto quello che spiegava Guglielmo prima, è giustissimo, nel senso che il nerd medio, ovviamente misogino, però esistono delle, come posso dire, eccezioni, dove ci sono i presi bene. Reddit è un contenitore di presi bene, perché secondo me Reddit ha delle politiche molto ferree sul comportamento che si tiene sul profilo, sul forum, scusate. E mentre invece c'è una serie di persone che prova gusto ad aiutare chi fa delle domande. se un utente fa saggio. Una domanda anche stupida, molto spesso io sono iscritto a un sacco di gruppi su Facebook di montatori video, effettivamente ci sono delle persone che chiedono delle cose stupide, però la cosa bella è dargli gli strumenti per poter andare avanti, l'aiutarsi. Ma tu devi vedere che commenti che fioccano d'amore, ma grazie mille, mi hai salvato ore di lavoro, sentiamoci in privato, queste cose così, no? Ti offro una cena. Stai dicendo come broccoli da 5 anni a questa parte, quindi 10. Bravo, bravo. Cioè, per dirti, siamo sul gruppo video editing, 122.000 partecipanti, cioè il primo come si dice, posto di oggi, quello che ha totalizzato più punti, perché poi pigiare la cosa su vuol dire che acquisti punti e sali. È un tipo che scrive: "Hi everyone, I recorded over 11 gigabyte of new waterfall and river sounds here in Iceland." 11 gigabyte di solo audio, solo una audio. Cosa pazzesca. I hope you can use this thing sounds effect as well. Cioè lui te li sta offrendo, cioè lui posta, è per dire ti sto dando il link per scaricarti 11 giga di suoni. Sto male. E che c'è solo la gente che scrive: "Ma no, ma va, che bomba, bellissimo, figa, sei un santo, you are a saint. Thank you, this is very generous." Beh, effettivamente non è che ha tutti i torti, comunque. "You are a walking goat." Un goat non sono mica le... Sì, ma è anche perché esatto. Full times. No, goat non è mica sta cosa qua. Commentando la foto di lui che ha in mano un microfono di quelli da film, quelli col piumino davanti a delle cascate meravigliose. Sì, fondamentalmente noi lo chiamiamo il dead cat, il pelosino che contiene il microfono. Fondamentalmente. Però io sono curioso di arrivare alla fonte di tutto questo tuo asmania di Reddit. Dai, andiamoci. È ora di andare alla fonte. Chiamiamo quel disgraziato di mio fratello minore, con cui ovviamente non ho detto nulla. Beh, ci mancherebbe. Quando mai zona rossa arriva prima, certo. Zona rossa arriva dopo, certo. E fa male. Esatto, fa male quando se ne va, perché non è mai arrivato. Esattamente. Sapevo come chiuderla. Quindi abbiamo il piacere di chiamare, come si chiama? Giulio. Giulio, mannaggia. Pronto? Bella fra, com'è? Pronto? Tutto bene? Sì, tutto bene. Ascolta, devo dirti una cosa importante. Sei pronto? Hai tempo? Sì. Bravo, sei in diretta, sì. Radio ZM Zona Rossa. Ciao Giulio! Buonasera! Ciao, buonasera. Allora, noi abbiamo 28 milioni di ascoltatori, per cui modera bene il linguaggio. Ma mi vale come credito universitario essere in diretta. Sei già laureato. Radio ZAM. Sei già laureato. Perché è Zona Rossa. Se era un altro programma andava peggio. Con noi hai già la laurea. Sfigati. Ma ti serve che non... Ti serve triennale o specialistica? Radio Zona Rossa. No, triennale. Allora, c'è problema. Dicevo che sfigati quelli che non ascoltano Zona Rossa, anzi oserei dire che pezzentoni. Ha già capito, buon sangue non mente, buon sangue non mente. È per non è mio fratello, sì. Ascolta caro, allora ti abbiamo chiamato perché stasera stiamo parlando di Reddit, perché da quando tu mi hai fatto entrare su Reddit io ci sto perdendo il cervello, e quindi siamo andati un po' in giro a curiosare su Reddit. A questo punto vogliamo sapere, tu, cioè giovane del 2000 che è nativo digitale, che ha scoperto Reddit più degli altri e che ha mollato Facebook perché è pieno di boomer schifosi. Vero, tu Reddit per cosa lo usi? Cioè, vogliamo sapere i tuoi subreddit, ovviamente quelli che si possono dire in una radio, in centro sociale, per cui quelli con bambini sgozzati, donne nude, sì. Negri picchiati, no, guarda, non si possono dire. Consiglio subito, soprattutto sapendo il vostro tipo di ascoltatori, il canale dell'Europa federale, in cui c'è un tipo che sta già pensando a come dovrebbe essere il referendum per uno stato che vuole entrare nell'Unione federale. E tipo era un sondaggio a cui ovviamente tu potevi rispondere in modo, cioè con il tuo account, e il 99% degli utenti ha tipo votato l'opzione l'unione è per sempre, quindi tu sei già dentro l'unione, non oddio. Devi votare, una cosa del genere. Oddio, meraviglioso. Ce ne sono di tutto. Di solito più che altro il fatto che su Reddit ci sono i canali su ogni singola cosa, ogni opera, ogni fumetto, ogni libro ha il suo canale, e dentro c'è un sacco di gente inscimmiatissima che ti posta i suoi disegni, le sue teorie, i link per i siti in cui puoi vederli in modo non troppo legale, fanfiction, robe di come si chiama? Di merchandising. Ma scusa un secondo, tu adesso stai usando il telefono con noi, però riesci a guardare proprio la tua home, dirci cosa c'è nella home? Perché secondo me è molto più reale, ci dai più l'immagine di cosa veramente fanno i giovani e le giovani. Dai, non è un gesto difficile. Pronto? È successo qualcosa? Ho messo la chiamata in attesa, cosa è successo? Pronto? Richiamiamo. Mi sa che stava facendo la cosa che gli hai chiesto di fare e, fatto, e gli sarà partito il muto. Va bene. Non facevo più smart, mio fratello, non facevo più smart. Ma no, ma l'emozione della diretta capita a tutti. Non ti ricordi Cigo le prime volte cosa faceva quando lo chiamavamo? Mamma mia. Ci sono, stavo cercando da... Mi senti? Vai, vai, vai, ti sento. Che sto cercando sull'applicazione perché da PC non si può vedere tutti i miei cose. Vabbè, ma intanto no, Giulio, già che ci sei, dici un po', da quanto tempo è che sei su Reddit? Solo dal 28 agosto, perché Reddit ti fa il compleanno, e perché poi c'è tutto un sistema tipo di soldi con cui tu puoi dare, con questi soldi che ovviamente puoi pagare, comprare a pagamento, puoi dare degli award, cioè dei premi agli altri, come si chiama, agli altri utenti o a te stesso, che puoi addirittura customizzare tu, cioè i canali più grandi come quelli appunto forse dell'Unione Europea hanno proprio quelli customizzati, okay. O anche quello italiano. Sì. Che tipo tu hai l'award che ti puoi mettere vicino al nome per indicare la tua origine di provenienza. Ok. Oppure questi soldi li puoi ottenere o pagandoli o cioè tipo quando fai un anno su Reddit te ne danno un po', se i tuoi post ricevono punteggi alti, tipo c'è tanta gente che vota i tuoi post in maniera positiva. Sì, esatto, ho visto prima. Guadagni dei soldi. Ah, guadagni dei soldi, era la prossima domanda che volevo farti, quindi se arriva un momento in cui guadagni dei soldi da usare lì. Ok. Sì. Ma in realtà non per ogni post, cioè non è un like, una quantità di denaro, sono degli obiettivi, un po' come nei videogiochi, diciamo. Cioè, se completi, se fai un tot di post, ho letto anche qualcosa tipo quando arrivi al 100° post che ti hanno votato in positivo, almeno una persona ha votato, ricevi tot soldi. E poi ci sono i punti karma, che invece non ho ben capito come funzionano, e dovrebbero essere dei punti a seconda di quante persone hanno trovato utile il tuo post o quante persone, non ho ben capito. Io per esempio ho scritto in totale 4-5 post, ho 22 punti karma, però non ho ricevuto 22 upvote, come si chiamano su Reddit. Ok. Non so benissimo come funzioni, però c'è gente che ne ha 20.000, per cui evidentemente non sono così difficili da accumulare. Ah, dici questi post? Sto arrivando, però non trovo i... non trovo la... È un ragazzo poco smart, ha fatto così. No, è un'opzione che non è che se usi tantissimo. Ma perché tu hai la tua wall personale, ce l'hai comunque? C'è la wall personale, ma c'è anche una parte in cui... Oh, ho trovati, ce li ho. Allora, R-Art, tutti i canali di Reddit sono R/ il nome del canale. Arte, che è quello più grosso in cui la gente pubblica i suoi lavori, è un po' infame perché i gestori di questo canale, non so quanti soldi faccia un gestore di canale di Reddit, sono comunque tot milioni di persone, sono veramente tantissimi. Il fatto è che però le regole per postare sono difficili, sono super ferree, e se tu non le rispetti, ci ho provato, ti viene cancellato subito il post. Okay. Il che è un po' uno schifo, perché fondamentalmente loro gestiscono un canale in cui altra gente pubblica i loro contenuti. Certo. E secondo me, se il tipo pubblica un suo disegno, ci sta che manchi il link del suo canale YouTube piuttosto della sua pagina Instagram o del suo blog, perché è un suo lavoro. E invece questa cosa non si può fare, puoi soltanto mettere il titolo, la tecnica, l'anno in cui l'hai fatto, il nome dell'artista se non sei tu che lo proponi, e basta. E quindi è come se fosse, in realtà, cioè nessuno, poi non so quanta gente abbia la sbatti di andare a cercarsi l'artista senza il link, eccetera. Poi ho Berserk, ho Brooklyn Nine-Nine, che è una serie TV, ho Casual Conversation, che fa abbastanza ridere perché gente che magari ti scrive: sono 3 mesi che non vedo nessuno per il lockdown, o voglio di parlare con qualcuno. Io per esempio uno di questi ho risposto, un tipo americano, e gli ho spiegato un po' cosa visitare in Italia, perché quando ho scoperto che l'italiano è impazzito. Poi uno che si chiama Data is Beautiful, che è presente in mappe di qualsiasi cosa, e anche mio fratello apprezza un sacco questo... Mappe nel senso la mappa? No, grafici. Oh mio Dio, cosa. Certo. Che ha fatto, mi ricordo che l'ho visto tipo oggi pomeriggio, un grafico di un tipo che ha fatto vedere, cioè ha fatto un grafico a torta di tutte le frasi che suo figlio di 4 anni usa di più. Madonna, ma quanto sei malato per una roba del genere. Ma sì, era una roba bellissima, è tipo la frase che mi salta di più è: papà, vieni a vedere cosa ho fatto su Minecraft, una cosa del genere. Un genio, a 4 anni questo. Una roba malatissima, A 4 anni questo gioca Minecraft e dice: papà, vieni a vedere cosa ho fatto su Minecraft. 4 o 6 anni, comunque era piccolo, faceva aspettare. Oppure ci sono cose anche più folli, tipo un ragazzo sempre americano, perché ovviamente la stragrande maggioranza degli utenti è americana, che fa, aveva calcolato nella sua cittadina quanto inquinamento dell'acqua ha prodotto una centrale chimica della sua città, che poi era stata chiusa appunto perché era stata beccata a versare chissà che cosa dentro il fiume. E quindi immagino un sacco di cose. Poi c'è quello di etimologia, ma non pubblica nessuno. Quello dell'Europa, quello degli europei federalisti, che mi fa spezzare, perché c'è la gente, come ho detto a Guglielmo, c'è un tipo che ha fatto la bandiera dell'impero galattico europeo, nel caso servisse. Nel caso servisse. Non si sa mai cosa potrebbe succedere. Poi uno che si chiama Get Motivated, che anche lì fa ridere, sono post un po' buonisti, cioè gente che supera l'alcolismo, robe del genere, però sono anche storie un po' più simpatiche, tipo anche qui uno veramente bello di questo Nigga, cioè non so se posso dire Nigga in diretta. Puoi dire Nigga, puoi dire Nigga. Che ha fatto questo post, poi bello che tutti i nomi sono coperti, quindi non si sa bene chi sia la persona. Questo tipo che però parlava questo post di Twitter super in slang, infatti ci ho fatto un po' fatica a capirlo. Prende, raccontava che lui vive in periferia, a un certo punto alle 8 di mattina sente bussare alla porta, lui va lì in mutande, apre, c'è sto ragazzo di 14 anni che gli chiede, stamattina mi sono svegliato, non c'è nessuno in casa, non so come andare a scuola. E quindi il tipo l'ha accompagnato a scuola, nonostante non lo conoscesse, eccetera, e gli ha fatto una foto di sto ragazzino mentre va a scuola, con sottoscritto: dai bro, che la scuola è importante, si aiuta sempre un fratello nel momento del bisogno, che mi ha fatto spezzare dal ridere. Poi c'è Interesting as Fuck, che invece è roba a caso. Ci sono anch'io, se Interesting as Fuck lo seguo anch'io. Sarà divertente, tipo un post che ho visto è del granchio pistola, che riesce a chiudere la chiesa così velocemente, a creare un dislivello di pressione nel mare, e quindi con la pressione bolla che cambia riesce a spaccare le conchiglie e mangiarsi la voce dentro. Poi quello italiano, che non ce lo aspetteremmo mai, ma è veramente veramente carino, e c'è un sacco di gente strasimpatica nei commenti. E tanto non è così male, cioè c'è un po' anche di antifascismo, ci sono anche delle robe intelligenti, sì, che a volte sono proprio buongiorissimo caffè. In Italia c'è il trend notizia news, che forse nemmeno voi sapete perché forse siete in radio, che Berlusconi ha il coronavirus. Sì, ci è arrivato in redazione il messaggio. E tutta la gente che commenta, ovviamente ci sono frecciatine, però non c'è nessuno che sta insultando apertamente come ci si aspetterebbe. E no, il ritaglio ha risposto soltanto a un tipo, un ragazzo pugliese che era tutto depresso, perché lui nella zona stradepresso della Puglia, che tra l'altro è tipo una delle regioni con il più basso tasso di occupazione europee, fa che lui è depresso perché oggi era una settimana fa questo. Era al mare, ha raccolto la spazzatura e un ragazzo del suo, una famiglia del suo paesino l'ha preso per il culo, perché che cazzo si mette a pulire la spiaggia dai rifiuti, e quindi era super depresso, ha detto che non vede l'ora di andarsene dal suo paesino, perché la gente che c'è lì è veramente fuori di testa. Poi seguo un po' di canali Quindi possiamo dire che Reddit segue la vita delle persone, e le persone ci postano la propria vita su Reddit e ne ricavano, sì, però cose belle. Cioè, quello che penso è che Reddit, fondamentalmente, essendo fuori da ogni tipo di like, ogni tipo di faccio vedere chi sono io, il che può essere un pro o un contro. Cioè, io su Reddit mi diverto un casino, ma non scrivo con nessuno che conosco realmente, mentre Instagram, WhatsApp, social della verità. Però non essendoci questa cosa, tutte le persone che ci scrivono sono persone che hanno voglia di condividere qualcosa, che hanno fatto, che pensano, e che lo fanno non per una visibilità, ma perché vogliono che qualcun altro gli rispondi con qualcosa che interessa. Certo. E aspetta, ce n'è uno bellissimo, di cosa che si chiama World Building, scusate, che prende gente in giro per il mondo che si sta costruendo il proprio universo fantasy proprio. Non ho ben capito se questa è gente che veramente ci lavora o solamente gente sbandata. E c'è gente che posta o le proprie mappe o le proprie specie, tipo elfi, nani, che si è inventato, oppure posta domande perché non sa come andare avanti. E io ho risposto a questo ragazzo che si era tutto immaginato un universo in cui gli elfi sono allergici al ferro, all'iron, cioè quindi sì, il metallo in generale. E quindi lui si chiedeva: se gli elfi non sono allergici al metallo, cosa possono utilizzare per fare le armi? Sto male. E quindi c'è tutto, ma è bello, il trip potresti mentale, andare avanti all'infinito. E quindi c'era un tipo, e lui spiegava nel post che io ho provato a rispondergli dicendo potrebbero usare le radici degli alberi. Lui fa, sì, il problema è che io li ho immaginati come se fossero tipo abitanti del cielo, tipo sulle nubi, vivono con il potere dell'aria, quelle robe lì, e quindi non ci sarebbero alberi. E quindi un tipo gli ha risposto sotto, beh, allora potresti ipotizzare che controllando l'aria potrebbero, come si chiama, compressare particelle di polvere, di rocce, eccetera, così tanto da farli diventare delle lame. E il tipo fa, geniale, quindi no, potrei... No. Erano veramente un sacco di gente fastissima. Secondo me... Poi seguo Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh! Le passioni giovanili, ma quelle secondo me è meglio se le lasciavi nascoste. Cosa di cui dovresti vergognarti, te lo dico sempre. Ma no, ma perché anche lì c'è un sacco di gente pazza che posta le loro collezioni incredibili, assurde, o artwork, cioè opere d'arte. Va bene, allora io direi che a questo punto passeremo la serata a chiamare la gente a parlare di Reddit. Tu ci devi dire adesso invece che canzone vuoi ascoltare, perché lo sappiamo che tu naturalmente, cioè, starti ascoltando la Radio ZM, giusto? Aspetta, non ricordo l'artista, dammi un secondo, fammi utilizzare i miei potenti mezzi. Certo. Intanto che Giulio cerca, e poi andrò nella stanza dei vinili a prendere il brano. Tu immaginati se avessimo scoperto Reddit poco prima del lockdown. Mamma cosa mia. Sarebbe stata Zona Rossa? Dai, Cigo, ma intratteniamo il pubblico. Tu hai appena scaricato Reddit, ti ho visto. E in che gruppi sei? Io sono in... Adesso lo riapro subito. Giulio, quando vuoi, entra a gamba tesa con la canzone. Assolutamente, quando ce l'hai, sì, non sì, sto cercando. Sono in Fuck the Alt-Right. K0 KO, fuga dalla quarantena. Quelli secondo me ce l'ha. Sì, e beh, te l'ho fatto ascoltare io. Infatti, però non lo so, magari nella playlist non era presente. Poi devi sapere che qui, detto, nel centro sociale che non hai mai frequentato, pur essendo un luogo dove io passo discretamente tanto tempo, cioè c'è un gruppo di pop che l'aveva messa in una puntata di Up Underground Pusher mesi fa e l'aveva ascoltato. Ma sì, se tu trasmetti alle 7:48 quando io sto studiando, Studiando Giulio, che sei su Reddit. Ho un esame bravo. Comprami la roba che ti avevo chiesto, maledetto, che devo leggere. Sono già arrivato. Bravo, bene. Allora leggile, che poi devo portarmela a casa mia. Grazie Giulio, sì, è stato bellissimo. Ascolta, sì, la canzone, collegati. Giulio, collegati, che c'è la canzone per te. Ok, dai, adesso arrivo. Ciao, Ne. Ciao. Beh, mega interessante comunque, Giulio. Fantastico. Ferratissimo. Fantastico. Dai, ascoltiamoci questa canzone. Allora, però bisogna dire una cosa. In questa canzone c'è un verso sessista, perché vero, a un certo punto lui dice fottiti troia, vero. Ma è una citazione di un altro tipo che l'ha detta sul serio. Lo sta facendo una citazione ironica. Quindi cioè, ci permettiamo di avvisare che c'è questo verso. Noi non lo pensiamo, non è una cosa giusta da dire, però viene detta in una canzone e fa anche abbastanza ridere, benché non si debba ridere di queste cose. E via. Volevi un pezzo serio sulla situazione, qualcosa che ti desse speranza, cambia pezzo, perché? Perché flippo solo hardcore, non regalo niente perché flippo solo hardcore, flippo solo hardcore, flippo solo hardcore, yo, non regalo niente perché flippo solo hardcore, non regalo niente perché flippo solo hardcore, solo hardcore, solo hardcore, solo hardcore, yo. Yo, non regalo niente perché flippo solo hardcore, solo hardcore, solo hardcore, solo hardcore. Yo, yo, non mollo il colpo come Skeletor. Fuggo dalla quarantena come Iena da New York. Ho finito le siga, esco e mi urlano di tornare a casa. Rispondo molto gentilmente, fottiti troia. Fanculo, maledette snitch sul balcone. Scappo dagli sbirri, non ce l'ho l'autocertificazione. E tu? Continui a dire che tutto andrà bene. Ti paragoni ad Anna Frank mentre a casa ti ammazzi di seghe. L'economia crolla e chiudono le imprese. C'è chi per farsi notare propone di riaprire le chiese. Cos'è? Tipo selezione naturale. Dov'è il tuo dio ora che stai male? Non c'è posto in ospedale. Sembra di stare dentro Black Mirror, in un episodio triste decisamente troppo lungo. E non finisce a maggio, né alla fine dell'anno. Anche se l'argomento è peso, quando rappo mi parte il danno. Perché flippo solo hardcore, non regalo niente perché flippo solo hardcore, flippo solo hardcore, flippo solo hardcore, yo. Non regalo niente perché flippo solo hardcore, non regalo niente perché flippo solo hardcore, solo hardcore, solo hardcore, solo hardcore, yo. Yo, non regalo niente perché flippo solo hardcore, solo hardcore, solo hardcore, solo hardcore, yo. Yo, Non mi arrendo come Skeletor e vado dalla quarantena come Iena da New York. Silenzio, il momento è catartico. Se dici che andrà tutto bene sei stupido, sappilo. Sono il cattivo come Vigo il Carpatico. Insulto sempre tutti, sono monotematico. L'immunità di gregge come il ministro britannico. Tu linguazza un gesto di un volo transatlantico. Drammatizzo mentre fuori c'è il panico. Sono sensibile quanto un martello pneumatico. Ti trasformi da autonomo ad automa in un attimo. Ci aspetta una recessione, ma il 5G quello che temono. This is Italy, altro che Donald Glover. Abbiamo avuto il piombo, il fango, il Covid-19. Non mi importa di quello che diranno. Anche se l'argomento è serio, quando rappo mi parte il danno. Perché flippo solo hardcore, flippo solo hardcore. Non regalo niente perché flippo solo hardcore. Flippo solo hardcore, flippo solo hardcore, yo. Non regalo niente perché flippo solo hardcore. Non regalo niente perché flippo solo hardcore. Solo hardcore, solo hardcore, solo hardcore, yo. Yo. Non regalo niente perché flippo solo hardcore. Solo hardcore, solo hardcore, solo hardcore, yo. Yeah. E sì, zio. Flippo solo hardcore. Oh, oh, oh, oh. Flippo solo hardcore. Che cazzo vuoi che ti dica? Flippo solo hardcore. Cazzo volevi un pezzo conscious? Flippo solo hardcore. Ah zio, yeah. Flippo solo hardcore. E non stare tutto il giorno sui social a lamentarti, che a nessuno frega un cazzo di niente di quello che fai. Ce ne fottiamo se sei depresso, se ti prende male. Abbiamo tutti delle storie di merda, cosa credi, sì? Uè, ci stiamo facendo del male chiamando un'entità. No. Pronto? Pronto? Il numero che hai composto no. È inesistente. L'ho preso male, ne ho altri, ne ho altri. No, no, perché quello lì è un po'... Sacco. Quindi niente, la puntata cercherà di andare a cerca, cercherà di andare a cerca, andare in ricerca. Si alzano i volumi, giustamente. Mi prendo il numero di telefono, tu non dettarmelo, se no lo sente mezzo mondo. E quindi niente, mezzo mondo, perché naturalmente ci ascoltano un sacco di persone. Cigo, quindi un'impressione così aperitiva di Reddit? Devo dire molto positiva. Morbidissimi. Stavamo discutendo adesso anche in relazione, per momento serio, piccolissimo, a discussioni fatte tra noi compagni, soprattutto su antisessismo e tutto, che sembra un po' la versione positiva di 4chan. Sì, quello... sì. Brutto posto dove in alcune categorie brutta, diciamo, roba. Diciamo che è nata la peggio destra, estrema destra americana. Che storia. È vero, è vero, confermo. Confermo perché Franco Berardi, in un suo bellissimo libro che si chiama Heroes, che vi consiglio tantissimo, il sottotitolo è Suicidio e omicidio di massa, analizza proprio che gli omicidi americani, quelli più famosi dove una persona impazzisce con un mitra e entra in una sala cinematografica e fa fuori 20 persone, molto spesso queste persone, poi dopo le indagini si scopre molto facilmente che erano assidui frequentatori di forum dove cercavano, tra virgolette, consenso alle loro teorie, perché pubblicavano pagine e pagine di insulti verso l'uomo, insulti verso la razza, elogi al darwinismo, elogi alla regola del più forte, alla regola del più... quello che prevarica contro il più debole vince, il mondo è fatto così, quindi io vi faccio vedere che entrando con un'arma sfolla gente riesco a cambiare la situazione. Quindi Cigo ha perfettamente ragione, ha lanciato la palla verso quello che è il lato più oscuro. No, dovresti salvarlo su WhatsApp e chiamarlo su WhatsApp. Non riesco, scusami. Perché so che quello lì mi scrive da WhatsApp, quindi se lo chiamiamo su WhatsApp risponderà con le sue mega 500.000 antenne, perché quest'uomo è un uomo molto tecnologico, quindi noi da paraculi quali siamo, molto nati in zona rossa, andiamo a chiamare chi sappiamo che può darci la ciccia che ci serve, perché ovviamente che se chiamiamo... Chiara, gli chiediamo di Reddit, non potremmo sa. Fare una parentesi momentanea e chiamare coloro che bazzicano, cos'è che sono in Portogallo? Portogallo. In quel di Lisbona. Però compagno Renzo, ti richiamo all'ordine, noi siamo usi, non dire mai chi chiamiamo perché lasciamo questo velo infatti, di tristezza. Infatti è il Portogallo, chiamiamo il Portogallo. Chiamiamo il Portogallo. In realtà la persona con le antenne stiamo riuscendo a contattarla? No, ma c'è un problema nel mio dispositivo perché evidentemente non mi sta salvando. Ma ci mette sempre un attimo a refreshare la rubrica però WhatsApp. Sì, che l'ho sì. chiuso pure. Intanto ringraziamo tantissimo tutti quelli che ci stanno ascoltando adesso e vi ricordiamo che siamo in diretta su Radio ZM con Zona Rossa, che torna ad avere in presenza il sottoscritto Lorenzo, Guglielmo e il mitico Cigo, che lo stagista, è la star, lo stagista Bacini. Che di solito chiamiamo in lontananza lo stagista star. E vi ricordiamo anche che potete ascoltare Radio lo ZM stagista. Star in tutti i canali che trovate. Fra un po' saremo anche su Reddit, ve lo garantisco. Minchia, veramente, raga, ma bomba, sì, totale. Zitto tu che Instagram è indietro di sei mesi. Silenzio. Vado a pulire. Vai, vergognati, vergognati. Bravo, il bagno, va a pulire. Altro che saggista, meno crediti te li tolgo, non te li do. Comunque sarebbe bellissimo fare il Reddit di Zam, tipo Everyday Life Zam, perché ci sarebbero delle cose meravigliose. Tipo l'altro giorno sono andato per sbloccare gli scarichi del tetto e ho trovato un tubo pieno di rifiuti organici. Esatto, ma... E dall'altra parte. Vi ricordiamo anche che a Zam abbiamo il piacere di avere quella che è la pentola dei buoni propositi. Com'è che si chiama? Pentolone delle idee. Il pentolone delle idee, esatto. Invece io ne vorrei creare un altro, che è una cosa che abbiamo creato di recente nella casa nuova, nella magione nuova in cui siamo andati ad abitare. Lasciandomi da solo. Esatto, lasciando da solo Guglielmo, che è la lista dei desideri. Ecco, una cosa che io vorrei un sacco qua è proprio uno di quei telefoni vecchi rossi. Sì, che è proprio come Enrico Papi agli esordi. Avete presente che faceva quella trasmissione in cui c'era la camera fissa che lo inquadrava e lui che chiamava le casalinghe a casa? No, ve la ricordate? Io sono un po' giovane. Io chiedo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici se si ricordano. Ma questo qua alle mie spalle, cioè, che commento appena fatto? Mi ricordo che sono giovane. E beh, quindi giovani, meno più di giovani, 10 anni di differenza. Ci arrivano dei messaggi alla chat, che ricordiamo su Telegram, freschissima chat che abbiamo da poco. Non è vero, sono 8 mesi che c'è. Radio Zam trattino basso chat. Ci hanno appena mandato un messaggio con scritto: fate tacere il numero cigo. Che hai composto. No, così no. Niente, così no. Non me lo sta trovando. Non te lo sta trovando su WhatsApp. Allora, niente, facciamo la parentesi portoghese. Andiamo a chiedere ai nostri compagni, alle nostre compagne in Portogallo, se sono lì e come se la passano, e soprattutto se usano Reddit. Va bene, non c'è bisogno che impugni il telefono, fai gli avvisi che ti stiamo chiamando. Sei una schifezza umana, cigo, non lo fare. Anzi, non pensavo avessi il numero. E ti dirò di più, sarei tu a intrattenere la telefonata. Prego, avanti tutta. Raro caso di telepatia radiofonica. Facciamo i commenti alla Jalapas dietro, tipo stile Jalapas. Ma che capelli ha quella? Anzi, ma Norberto come sta? Cos'è partito? Bello. Pezzoni che ha messo... Ste, che salutiamo. Ma se parlo così non mi si sente, dice? Sì, assolutamente. Okay. Devo stare pronto? Scuola. Pronto? Ciao, Kayara. Cigo. Com'è? Tutto bene, tu? Bene, dai. Perché mi stai chiamando a questo telefono? No, volevo sentire come andasse. Cioè, ho il telefono scarico, ti ho chiamato da quello di Gulli. Non è proprio un buon momento. Non è proprio un buon momento. Va bene, chiedo... Perché? Ti richiamo tra 10 minuti. In realtà sarebbe importante adesso, però... Pronto adesso, ci vedo. Vabbè, io... Ma Chiara, perché non vuoi stare al telefono con noi? Ma Chiara, sei in diretta radiofonica e ci pisci così? Che cazzo? Cosa state facendo? No! È questa, mi dispiace ammetterlo, ma è la prima volta che ci buttano il telefono in faccia. Ma scusa, ma... È la prima. Posso dire una cosa brutta? Ma era veramente Chiara? Sì, era Chiara. Non conoscevo la voce, ho paura, ho detto, oh mio Dio, ho sbagliato. Era Chiara in un momento particolare. Evidentemente sai, non era il momento. Ci sono dei momenti particolari in cui la voce ti cambia. Ma scusa, ma... Non so se... Cioè, a vabbè, non sto, continuo a non capire, ma fa niente. Cioè, non capisco. Come facciamo? Che abbiamo dupe? Chiediamo Norbi? Non lo so, a questo punto... cioè... Io chiamerei dupe. Sì, chiama dupe. Perché sicuramente sono in viaggio insieme, ah, no? Figa. Ma io sono un leso. Io pensavo se stiamo chiamando Costanza. No. È per quello che non riconoscevo la voce. No. È la prossima, se non risponde Dupe è la prossima. Che leso di merda. È importante, Dupe, rispondi. Quando sentirai la... Lui non podcast, risponde sicuro. Riderai. Lui non risponde sicuro. Non risponde normalmente. Cico dalla regia ci dice che non risponde sicuro, quindi andiamo direttamente su Costanza che... risponde al volo. Maledetti, non rispondono al telefono per parlare di Reddit. Andiamo a vedere su Reddit se c'è un gruppo per la gente che non risponde al telefono. Ti prego, vai a cercare se c'è una roba del genere. Roba tipo answering the phone. Ma ci sarà un gruppo dove la gente parla di com'è la misura migliore per rispondere al telefono, tipo con buongiorno o salve. Io penso che potrebbe essere molto malsano per me in quanto mezzo... Attenzione, non piglia nemmeno. Non prende nemmeno. Succede. In quanto mezzo complottista, io eviterei di bazzicare su Reddit perché potrei trovare dei gruppi di interesse. Penso comunque settimana prossima. Dici, oddio, ma quello ha detto una cosa interessante. Ah, Julian Assange. Ah, sì, okay. Allora è vero. Tu stavi controllando. Intanto continuano a fioccare messaggi ai nostri numeri privati. Ma io vi esorto a scrivere i messaggi ai nostri numeri privati su Telegram. Ciao, Gulli. Ciao, Costi. Ciao. Come stai? tutto bene, grazie. Senti, adesso te lo dice Cigo la cosa. Beh, sei su Zona Rossa. Che bello. Ma come va la vita in quel di Lisbona? Ah, va tutto bene, ragazzi, grazie. Poi come va a Milano? Ma ancora meglio, guarda, siamo tutti nudi in radio, lo dicevamo prima, esatto. Rachele. Comunque, tu per caso sai cosa sta facendo Chiara? No, non è con me. È con te? Perfetto, è in giro, ok, va benissimo. Niente, scopriremo. Ecco, sta diventando come la nube di fumo di qualche mese fa. Che roba che diamo. Niente, benvenuta comunque su Zona Rossa. Costi, ti facciamo subito un brevissimo recap. La puntata oggi praticamente è la spiegazione fenomenologica di come mai molto spesso le cuffie le trovi attorcigliate dentro lo zaino. È uno studio che parte dalla matematica dei nodi, è una cosa abbastanza complicata, ma ci possiamo arrivare, sono 320 puntate, questa è la prima. Non puoi rispondere con le parole, puoi rispondere solo con un numero. Che sia leggibile al contrario con lo stesso numero di lettere dei numeri. Quello è palindromo, quello... No, cosa? Avete visto Tenet? Non ancora. Andate non ancora. A vedere vederlo, quel film. Andate a vedere quel film. Vai. Comunque, a parte gli scherzi, ti spiega Cigo su che cosa è la puntata. Allora, la puntata di oggi è... Sembra l'ho facciata apposta perché sono l'unico che non riesce a pronunciarlo. Però è su Reddit. Ascolta, questa scusa è un po' vecchia ormai, l'hai già usata diverse volte. Siete sempre stronzi. Puoi ridire un attimo su cosa stiamo... Questo è vero. La puntata di oggi è su Reddit, che tu sai che cos'è. Oh, raga, io sento poco un cazzo, ve lo dico. Ma no, ma è Cigo che deve avvicinare al telefono il suo muso. Oh, pardon. La puntata di oggi è su Reddit. Scusami, Reddit con la R di ramarro, esatto. Sai che cos'è? No. Ok, allora è una sorta di social network che però abbiamo scoperto prima che non è propriamente un social network. Social news diviso in stanze in cui tu entri con il tuo account in queste stanze che sono una sorta di gruppi giganti e in pratica commenti i post che vengono messi da altri utenti senza avere rapporti di amicizia. L'unica cosa che puoi fare oltre a commentare è mettere un upvote o un downvote, e questo porterà il post ad essere più in alto nella classifica della classifica di popolarità. Ed è, come enuncia bene Wikipedia e come ha detto Gulli all'inizio, il social dei presi bene. Il social dei presi bene. Minchia, andiamo a cercarti un motorino bene. Però Chiara, cioè, cosa dobbiamo fare? La Cochi. Sentire. Chiara, ciao Cochi. Bah, io scusa. Adesso butto giù. Costi, scusa. Perché prima ho chiamato la Chiara, ma ero sorpreso che mi ha risposto una voce che non era la tua. Mi ho detto, ma perché non stiamo chiamando la Costi e hai risposto un'altra persona? Ma in realtà stiamo chiamando Chiara. Vedi, ti pensa sempre. Completamente sbiellato. Sempre. Sì, è vero. Quindi, mi sono corretto. A questo punto, Costi, facciamo un gioco. Tu dici un tuo interesse personale. Una roba su cui nerdi di brutto, passi le ore a leggere post su Facebook o robe su Wikipedia, cioè perché quella roba, quell'argomento lì, quell'interesse lì ti piace un botto. Dici qual è? Ok, beh, allora probabilmente sarà travisata questa cosa, però la droga. Quindi scriviamo drugs. Ah. Scriviamo drugs e vediamo cosa ci dice Reddit. Ma secondo me, ragazzi, è uno spunto della Madonna. Sì. È vero. Io avrei detto la birra comunque. Potrebbe uscire allora un sacco di roba interessante. Ti facciamo scegliere. Cioè, ci sono quattro gruppi che si chiamano Subreddit, tre. Uno che si chiama Drugs, normale, 706.000 membri. C'è Drugstore Mua, 89.000 membri, e uno un pochino più piccolo, ma secondo me forse il più interessante, Drug Science, 2.9.000 membri. Quale scegli? No, andiamo su quello di nicchia. Su quello 2. Di nicchia. 9, perché ci stanno gli imbonditori, io lo so. Vai. Allora adesso cerchiamo di leggerti, è tutto in inglese, perdonaci per la nostra tristezza. E guarda, qui ci parlano di una certa Zolpidem, Gets Me High, che tu, sapendo lo slang, Gets Me High, cioè mi fa di brutto. E qui vedo un bel post dove la gente parla di questo: I also tried Xanax with Zolpidem and it was even better. Anyone have any thoughts on this? Cioè praticamente sta chiedendo che cazzo è sta roba che mi fa di brutto, qualcuno la conosce? E vediamo cosa gli rispondono. Vediamo il commentino qual è. Insomma, cioè, come ti spiegava prima, compagno non si capisce, però io sono con voi col cuore. Ok, sempre. Ok, grazie Costi. Ma sì, non si capisce più nulla? Ma più altro salta la linea, ragazzi. Tipo, sono momenti ma certo, finché c'hai le compagnie dei poveri è normale. Sei in Portogallo, non prenderà niente. Chissà che linea ti appoggi. Dai, cattiverie inutili. Poveri compagni portoghesi. No, no, no, assolutamente, no, no, è la tua sim italiana. Aspetta, aspetta che Cigo mi dice che ti vuole dire qualcosa. Esatto. Dille, Cigo, dille. Ciao Cocchi. Ciao Cocchi. Vabbè, comunque ci sono un sacco di bellissime discussioni, tipo does anyone know what people cut heroin with? Cioè come viene tagliata l'eroina? E qui vedo 11 bei commenti lunghi con cui la gente si diffonde in dettagli su come viene tagliata l'eroina. No, vabbè. È una roba meravigliosa. Raga, cioè, mi avete appena aperto un mondo. È una figata totale. Sì, sì, sì, assolutamente. È proprio così. È quello che volevamo fare. Ma se vuoi dirci, guarda, adesso sono andato invece sul gruppo, quello più generalista. Quindi abbiamo 706.000 partecipanti. Oh mio Dio. Che è un gruppo enorme. Weed is way worse on an adolescent brain when it does meet out. Il mio inglese letto è veramente penoso. In poche parole, la ganja fa veramente male alla mente degli adolescenti. E ci sono 104 commenti di brutto. Un sacco di discussioni. Brutto. Un altro interesse che ci vuoi proporre? Magari cose che sia più da ridere, non so, cose belle, tipo cani non incastrati. Non lo so, un mio grande interesse è Nordi, che è qua con me. E Scriviamo Norbi su Reddit, vediamo cosa esce. Intanto poi puoi passarcelo al volo, mettere il viva voce. Lo sta passando. Oh. Ciao Norberto! Allora, ciao Armino! C'è anche Cigo! C'è anche Cigo qua con noi. Ah, quindi non è una puntata bellissima oggi. Esatto, proprio per quello. Vabbè, ascolta, ma fatto. Norbi, su due piedi, così, proprio velocissimo. Se tu avessi... Ma quando fai una domanda brutta, è sempre tragica. Esatto. Se tu avessi un forum dove si può parlare di tutto, qual è il primo argomento che sceglieresti? Il primo argomento che sceglierei? Che ti interessa molto, un argomento dove puoi trovare gente che ne parla. Tu sei su un forum che ospita un sacco di argomenti, infiniti argomenti. Sì. Cosa cercheresti per prima cosa? Politica. Qualcosa sulla politica internazionale. Dimmi una parola che useresti nel motore di ricerca, come un hashtag. Una parola sola. Che la cerchiamo. Una parola sola. Sì. Ok. Rojava. Ok, perfetto, bene. Tu conosci Reddit? No, mi ha sentito parlare, però non ho idea di cosa sia. E niente, fondamentalmente abbiamo deciso di dedicare tutta la puntata di Zona Rossa di oggi a parlare di questo social news, che fondamentalmente è un contenitore di gente che parla di argomenti, no? Però ovviamente è mastodontico a livello di numeri, nel senso che... È ospitato da migliaia e migliaia di utenti e milioni. I gruppi sono anche composti esatto da milioni di utenti, e però fondamentalmente non è una, mi viene da dire perdita di tempo, ma è sbagliato, non è dispersivo come Facebook, che invece è un po' più ordinato, un po' con qualche più regola in più, ma con molta libertà di espressione, e sono tutti molto presi, presi bene, insomma, no? È una cosa da presi bene, troverai gente che risponde in maniera presa bene e tu stesso ti verrà anche di fare preso bene, è un posto felice fondamentalmente. Guarda, ci troviamo dentro, scrivendo Rojava, c'è un bellissimo gruppo che ci sono appena entrato, come l'ho visto, no, bellissimo, che si chiama Rojava e ha 14.000 membri e pubblica aggiornamenti quotidiani da Rojava, per cui parla di quello che è successo nei trattati con la Turchia, ci sono grafiche contro il fascismo della Turchia e contro l'islamismo radicale, ci sono notizie su cosa ha detto Boris Johnson riguardo alla questione della relazione con la Turchia, cioè una bomba fotonica, bellissimo, e anche bello commentato, c'è anche partecipazione. Dai, bello, bello, guarda, ce ne sono anche altri che ti interessano, perché c'è quel curioso simbolo un po' strano, quello che c'è sempre sui libri fantasy, la cerchiata, è presente? Capito, quel simbolo lì... Migliore. Esatto, quelle cose tipo Harry Potter, no? Belli perché sono dei libri, belli. Un mondo migliore senza lavoro, senza prigioni. Ma ragazzi, è un gruppo con 9.000 persone che si chiama Comunialisti, cioè quello che siamo anche noi più o meno. Basta. Esatto, sono esatto. Sei già entrato adesso. Beh, facciamo un gruppo. Facciamo un gruppo. creiamo un nostro profilo Reddit, comunità resistenti. Minchia di brutto. E via. E vediamo quanti utenti raccogliamo e vediamo di che argomenti possiamo parlare. Spettacolare. Sarebbe interessante. Norberto, grazie, però vogliamo sapere come che aria tira in Portogallo. Quindi a te la parola, raccontaci che aria tira in Portogallo. Cosa siete lì a fare? Siete in vacanza? Siete lì per lavoro? I nostri ascoltatori non sanno niente, quindi dici un po', da dove rispondi? Come voi che siete i miei compagni ben sapete, io non vado mai in vacanza, io comunque faccio sempre politica. E questo, quindi io non sono in vacanza di Lisbona, io sto cercando di decifrare la geopolitica esistente qui, insomma. E devo dire che è stata in successione il viaggio. Beh, allora, mica male. C'ho in bocca un sapore di plastica, perché sei il fake del guarda. Abbiamo attaccato un sacco di adesivi in giro, questo è già... Hanno attaccato gli adesivi in giro. Abbiamo Lisbona. Bene, avete tappezzato un sacco, perfetto. Scontri? Lisbona e Milano Sud. Scontri, no? Purtroppo quello ci stanno lavorando, la cosa adesso la cosa rimane qua per 5-6 anni, quindi a breve ci saranno, devo tranquillo. Cosa ha fatto? Ha aperto una succursale la Cattolica in Portogallo? È successo? Sì, praticamente adesso la cosa ci andrà alle cellule di fuoco a Lisbona. Bello, finalmente. Non avevamo dubbi. Perfetto. Va bene, ma chi è che lo sceglie il brano a questo punto? Facciamolo scegliere alla Costi. Sì, perché sennò Roberto mette sempre Andrea, cazzo. No, mette lì Liberato, sicuro come l'oro. Esatto, dai Costi, vai. La canzone dopo, dite? Sì. Sì. Ok, mo io la chiedo. Ma di essere liberata 9 maggio. Ma certo. Ascolta, certo. Pagliaccio, dai. Penoso. Ci ha provato. Ci ha provato. Va bene. Vale, minacciarla. Io non so se si è sentita la minaccia sottostante. Sì, ma sì, si è sentita. Guarda, l'abbiamo tagliata come il burro, veramente. Veramente una persona orribile. Quindi? Comunque io in realtà avrei... cioè, vorrei cambiare... No, mi si arrabbia, vabbè. Ma tanto il pezzo è anche questo. Norbi si arrabbia a me, fa ridere come frase. Esatto. Cioè, sinceramente... Se si arrabbia cosa fa? È un compagno particolare. Ogni tanto gli parte lo streaming per fare le cose. Sappiamo che... Certo, però la questione è che... Cioè, non è il caso di farlo incazzare. Cosa fa? Ti fa una ringa se si arrabbia? Ti cita tutto il codice penale? Cosa succede? Ti stordisce il diritto romano? Va. Però che devi sapere che il magistrato... Ma questo genere di cose sarebbe veramente brutto, eh? Lo so. Magari... Però tu subirai per... L'amore per la musica. Interna. Esatto, infatti io ti chiedo, ricominciamo. Adesso passiamo per la nostra per ascoltarla e se ne vanno per mano. Cioè, vuoi ricominciamo di Pappalardo? Eh sì. Ragazzi, sì. Ma che ragazza romantica. Lo so. Adesso partirà un karaoke in radio da staccarci. Ah, raga, aspetta. Dici. Importante, io lo lancio in radio, non lo penso con l'equivo Zam, ma secondo me sarò d'accordo. Sì. Iniziamo a lanciare i karaoke settimanali. Potrebbe essere una cosa... Io ti sparo se fai questa cosa, Costanza. Ti sfondo le casse. Beh, dai, è andata bene comunque. Hai visto? La prima serata è andata una crema. No, io sto dicendo la reazione di Guglielmo. È andata bene. Io veramente ti aspetto con la balestra. Io ti mando i carabinieri con lanciafiamme. Come te lo devo dire, Costanza? Non mi canterai anche tu al karaoke, ce la faremo. Guarda, io mi auguro che tu non c'è mi senta meno. Ciao De Luca, ciao. Ma non mi senta mai cantare, perché potrebbe essere un'esperienza orrenda e... Ma anche se ci rimane non è un'esperienza piacevole. Va bene, allora se però vi arriverò comunque di questa cosa al prossimo karaoke, che sarà sabato sera a Zam. Venite tutto. Ma come, scusa, non dovevi rimanere... magari con un paio di canzoni pronte. Ma non dovevi, rimanere a Lisbona tipo 6 anni? Torno in Milano e poi torno qua. Ok, solo per i karaoke, ho capito. Quindi lo sì, karaoke... esatto, vengo tutti i karaoke, esatto. È la qua. Scusa per averti qui con noi, va bene. Esatto. Fantastico. Ma quindi a questo punto mi fanno il cenno dalla regia di provare a fare in modo che il soframmobile che c'è qui di fianco a me, che risponde al nome di Cigo, dica qualcosa. Cigo, ho fatto cadere l'acqua e stavo asciugando. Sei, cioè, veramente. Io non me ne sono neanche accorto, ma sei fuori. Lo so, sono stato molto bravo quando mi nascosto. No, ma ragazzi, Zona Rosa pensavo fosse arrivata molto in basso, e invece è arrivata ancora più in basso. Ma sei stato tu a spegnere l'acqua? Assolutamente. Sì, perché c'è l'altra accesa. Vabbè, fa niente, così ci vediamo meglio. È vero. Ma Costanza, quindi allora, cosa avete visitato nel vostro tour di Lisbona? Abbiamo visto un po' di robe in realtà. Tipo? Veramente tante, e racconterò tipo il quadro del Adesso possiamo dire anche noi che si sente male. Molto interessante. Beh, ma sei non diventata un robot veramente simpatica. Veramente. Comunque, sono tornato dalla cosa dei vinili e ho trovato il disco. Yeah. Costi, mettiamo la canzone, la cantiamo insieme come se foste qui con noi. Salutaci gli altri, soprattutto Chiara, chiedendole cosa facevi mentre ti hanno chiamato i compagni da... Però mi fai un favore. Mi fai un favore. Quando poi lei ti dice che cosa stava facendo, ce lo devi scrivere in chat. Ce va l'hai bene, la nostra va chat bene. Di Telegram ce l'hai, vero? Sì, certo. Brava, ma Chiara. Tra quanto la vedi, Chiara? No, lo faccio, appena trovo. Vabbè, noi alle 9 stacchiamo, che cosa vuol dire? Le mandi alle 9:10? No, nessuno. Ma la ritroviamo prima delle 9. Vai, ci contiamo, lo leggeremo in diretta. Vale. Il resoconto. Quindi ricominciamo, ascoltatela e dai un bacio a Norberto, per favore. Non mi vuole più. No, addirittura. Ciao Costi, è ciao stato Costi. Bellissimo. Ciao ragazzi, un bacione a tutti. Ciao. Ciao. Ciao. E lasciami gridare, lasciami sfogare, io senza amore non so stare. Io non posso restare seduto in disparte, né arte né parte, non sono capace di stare a guardare questi occhi di brace e poi non provare un brivido dentro e correrti incontro, gridarti ti amo, ricominciamo, so dove passi le notti, è un tuo diritto, io guardo e sto zitto, ma penso di tutto, mi sveglio distrutto, però io ci provo, ti seguo, ti curo, non mollo, lo giuro, perché sono nel giusto, perché io ti amo. Ricominciamo. Cosa vuoi che faccia? Io sarò una roccia, guai a quello che ti tocca. So che tu ami le stelle, gettarti nell'occhio del primo ciclone, non perdi occasione per darti da fare, per farti valere, ma fammi il piacere, ti voglio aiutare, su fammi provare, ancora ti amo, ricominciamo, ricominciamo, ricominciamo. Quindi praticamente abbiamo deciso poc'anzi che Zam ospiterà dei fantastici karaoke mensili per la gioia di Guglielmo e molti altri altre. Io li farei ogni 29 febbraio. Io avevo sentito che era settimanale però. Ah, settimanale! Ma chi è che se la colla? Scusa, ma pensate... Robe importanti, robe importanti. A quanto pare la cochi. Constatiamo che fuori dalle nostre finestre si sta avvicinando il buio. Che scende la luce la sera. È arrivata alle 20:20 e porco Giuda, è incredibile perché l'estate è finita. E questa canzone è veramente malinconica. Già, l'estate sta finendo. Però stamattina faceva un freddo. Io ero in giro in pantaloni lunghi e scommetti che ora Carletto te l'ha preso la rubrica. No. niente, il tuo telefono a vita propria. Ma e è possibile, gli stai sul cazzo, che tu abbia un altro numero salvato? Prova a mandarmi in contatto. Bravo, ma servizio infatti, di messaggistica. Esatto. Nel frattempo aspettiamo sempre che Cicco dica cosa intelligente, così per fare finta che sia anche lui con noi. Cosa intelligente, direi che è tempo sprecato. Va bene, allora però potremmo... Sì, ma dai un po' di cioè dai un po' di verve. Si chiama consapevolezza. Ma tu cerca cose brillanti su Reddit, okay, cerca gruppi improbabili, cerca cose, cioè è arrivato, qualcosa. È arrivato. È arrivato. Ah, ma è lui Carlo Vajacer? Eh sì. Porco cane. Spoiler. Stiamo per andare a chiamare una persona molto pericolosa. Ci siamo. È pericolosissimo. Potrebbe veramente durare eoni. Mi dai che c'è che sta squillando, ma non si sente niente. Come mai? Ah. Pronto? Oi. Ciao Carletto, sono Guglielmo. Che so davanti al pub. Ciao Carletto, sono Guglielmo di Zam. Ti ricordi? Ehi, come stai? Bene, io bene, tu come stai? Bene. Ascolta, mi ha dato il tuo numero Lorenzo, che è qui con me. Ciao Carletto. Sì. C'è anche Samuele. Ciao. Siamo in diretta su Radio ZM. Ciao. La radio che abbiamo a Zam. Oh. Sei in diretta, Carletto. Sto mangiando una pizza per strada, non so quanto è il momento di parlare in radio. Ma dici che vuoi che ti richiamiamo o ti dà fastidio? A noi va bene che mangi la pizza intanto. Carletto? Solo che sono un po' impicciato perché sono in mezzo alla storia con la faltone della pizza in mano. Niente. Ti richiamiamo tra un quarto d'ora, va bene? Va bene. Dai, fantastico, a tra poco. Ciao. L'ho detto che era una presenza oscura, è riuscito a contrastare zona rossa. Ma va bene. È l'unica persona che è riuscita a contrastare zona rossa. Insieme a Chiara. No, vabbè, ma Chiara che è diverso, era in imbarazzo. Invece Carletto con determinazione ha detto andate a fanculo. Oh, ma ragazzi, ma attenzione, io so che dobbiamo chiamare. Attenzione. Ma scusate, noi abbiamo dei nerd di fiducia. Beh, certo che abbiamo dei nerd. E a questo punto fiducia. Li chiamiamo. Assolutamente sì. Scusami, Stai pensando quello che sto pensando anch'io? Certo. Cioè, chi stai pensando? A Dan! Madonna, non ci posso credere. Vediamo se mi risponde, vediamo. Dai, sì. Ma 2023 è proprio radio cena. Uè, Dan, buonasera. Ciao, Gulli. Ascolta, dobbiamo dirti una cosa importante, perché non c'era venuto in mente prima di farlo, ma lo facciamo stasera. Tu sei in diretta su Radio ZM. Benvenuto. Buona su Radio sera. ZM. Evviva, ma vi metto ditemi, scusami, a parte che sei in diretta, che bello, ciao. Ciao Dan, come stai? Sto bene, grazie. Ti disturbiamo? Voi come state? No, siamo in riunione. Ma dai, oh, ma che figata! Allora vi rubiamo collettivamente del tempo. È vero, è mercoledì la loro riunione. Ma è meraviglioso. Radio Zam. Ciao. Ciao Unit. Vabbè, allora lo facciamo sempre, perché è giusto che lo facciamo. Lo facciamo anche stavolta con voi. Cioè, voi è colpa vostra se vi stiamo telefonando. Vi rendete conto? C'è la radio, ci avete aiutato a farla voi. Quindi esatto, ora esatto. Ve ne prendete la responsabilità. Va bene. Tenete conto che questo del palinsesto è il programma più idiota, che si gioca sul fatto che noi telefoniamo alla gente senza che la gente lo sappia. Ah, ok, fate gli scherzi telefonici. No, poi iniziamo a fare delle domande e tiriamo in mezzo, se ovviamente la gente è disponibile a colloquiare. Va bene, diteci la domanda. Allora, praticamente noi abbiamo stasera un topic che sembra fatto apposta per voi, perché stiamo parlando di Reddit. E siamo abbastanza sicuri che, secondo, voi sarete su Reddit, avete visto Reddit e ne parlerete, no? O sì? Ma Reddit o Reddito? Domandano di Reddito o di Reddit? Reddit, la social news. Ma certo, noi parliamo sempre di Reddit. Figata. Allora, benissimo. Avete voglia di raccontarci qual è la vostra esperienza, cosa ne pensate e cos'è Reddit per voi? Io dico una cosa, perché è l'unica cosa che so, così. L'ha fondato Coso, come si chiama? Coso. Aaron Schwartz, è un'idea di Aaron Schwartz, che è un hacker simpatico, un ricercatore universitario a Brooklyn, che poi è stato denunciato dall'MIT perché gli ha fregato dei documenti scientifici, non documenti riservati, delle pubblicazioni scientifiche, le ha divulgate, cosa che sembra meritoria, però l'MIT non l'ha presa bene, l'ha denunciato, lui alla fine si è suicidato perché la pressione era troppo grande. Porco cazzo. E tra le altre cose, è che è stato un gran peccato perché era una bella persona, e tra le cose che aveva fatto aveva fondato Reddit. Fantastico, io questa cosa non la sapevo, perché sta puntata è venuta su del fatto che Guglielmo è venuto a conoscenza di Reddit poco tempo fa e si è iscritto e si è stupito di quanto fosse ovviamente una cosa molto spesso per presi bene, nel senso che ci sono persone affiatate che rispondono in maniera precisa alle cose che vengono chieste o ai post che vengono fatti, e tutta questa puntata nasce dal fatto che telefoniamo alla gente, gli chiediamo se lo conoscono. Se non lo conoscono, gli chiediamo quale sarebbe la prima categoria o il primo thread che andrebbero a cercare. E invece, se lo conoscono come te, ci danno ovviamente delle informazioni in più che possono essere utili a capire meglio che cos'è. Quindi, cioè, un informatico come voi, cosa cerca su Reddit? Diteci cosa avete nella home, di che subreddit fate parte, cioè, cosa avete scritto i vostri post. risate, spiegateci le risate, scusate. Vabbè, io modero un subreddit, se in diretta. Ah, subreddit, ah. Sono insomma, spero che sappiate cosa siano. Presentati, come ti chiami? Io sono Lobo. Ciao Lobo. Ciao. E quindi niente, e questo. E ci stavi dicendo tu che subreddit amministri? Si chiama OPZ Users, in realtà è semplicemente niente, un subreddit su un sintetizzatore, OPZ, vabbè, che ciò, che niente, siccome era diciamo comodo andare in questo subreddit per trovare informazioni, alla fine è successo che l'hanno bloccato perché non c'era nessun moderatore, e quindi mi sono... ho fatto la procedura per diventarlo, allora è stato riaperto, è comodo perché la gente passa consigli, cose su come utilizzare il sintetizzatore, quindi almeno io personalmente lo uso come reference Reddit. Certo. C'è un sacco di informazioni, cioè io faccio il sistemista, quindi cerco anche un sacco di roba informatica, Linux, queste cose qui. Ma a livello di scambio, cioè di scambio di conoscenze, allora noi per esempio siamo abituati, vabbè, parliamo del Facebook, ormai del social più famoso, ma anche peggiore Facebook. Facebook ormai è diventato veramente la, come si dice, il raccoglitore della merda, perché la gente passa tempo a litigare su Facebook. La cosa che mi sono rimasto scioccato aprendo Reddit è che la gente su Reddit collabora. Cioè, ma collabora a dei livelli che sembrano quasi romantici, sembra quasi che lo facciano apposta. Cioè, proprio. Sì, c'è un certo orgoglio nel dare le risposte giuste. Quindi la gente quando commenta nei thread, insomma, se sono subreddit decenti, insomma, dove c'è dei buoni moderatori. Ovviamente c'è anche un bel po' di merda su Reddit, però insomma, ecco. Nel senso, non lo so, io quello che ho notato, sì, cioè, l'ho notato anch'io sta cosa, la gente si prodiga in spiegazioni possibili, immaginabili, troverai sempre un esperto di qualcosa che, insomma, è una cosa incredibile che è esperto reale, cioè esperto con dei veri fondamenti di conoscenza, cioè esperienza lavorativa, visto che un sacco di gente scrive da quanti anni è nel campo, da quanto tempo fa. Vabbè, c'è un forum, insomma, che funziona, insomma. Infatti, tra l'altro, io non l'ho usato, però mi è inevitabile nel momento in cui faccio delle ricerche, appunto molto spesso anche riferite al mondo del computer, finisco inevitabilmente su Reddit non essendoci iscritto neanche, perché molto spesso c'è qualcuno che ha parlato di quell'argomento e mi compare prima di altre cose. Sì, che abbiamo sentito poco in realtà, perché avevamo un telefonino scherzo. No, ma forse è il nostro che fa schifo, perché sì, voi ci avete dato una connessione e dei programmi affidabili e dei sistemi affidabili, ma poi noi, tutto il resto fatto da noi, fa un po' schifo. Ok, ma ci volete segnalare dei gruppi interessanti, cose strane, robe che veramente anche a voi vi hanno commosso di Reddit? Non so se qualcun altro vuole raccontarci altri subreddit che gestisce o che usa. Ma io sconsiglierei fortemente, se non a titolo di comicità, il Reddit, ma in realtà non è un subreddit, l'idea di Quanon, che in realtà ho scoperto oggi ed è scoperto essere un'altra derivazione di 4chan, che però sta per lo più su 8Q1, credo. Uh-huh. Allora, ma tu stai facendo riferimento... È una pericolosa mistura di fascisti e che davvero, insomma, potrebbe essere terrapiattista. Ma io ho letto un titolo e l'abstract di un articolo uscito sui Wuming oggi o ieri, che parla del corteo che c'è stato in Germania con 40.000 persone che appunto erano nazisti, hippie, gente che era contro il complotto della mascherina essenzialmente, e parlavano di questa piattaforma che, cioè, scusami, ripetimi come si dice, perché non so, ce l'ho letto di sfuggita, non sono riuscito a pronunciarlo nella mia testa. Com'è che si chiama? Ma non è una piattaforma, è una specie di meme, esatto, culto meme. Ah, di culto? Sono i cospirazionisti. Ah. Quindi dovremmo cercare... Dovremmo cercare questa parola su Reddit e vedere cosa esce fuori, giusto? vediamo, andiamo subito a vedere, perché siamo come San Tommaso, ci vogliamo infilare il ditino nel costato. Quanon? Q-non. Sì. Q-anon. Q di quadro, anon. Io ho conosciuto una persona che si è definita un anon una sera in un locale a Milano. Allora, non abbiamo trovato gruppi, cioè su Reddit, che fossero direttamente quanon. Ci sono Quitted Quarters, no, sono robe, sì, forse conspiracy, esatto. No, per ora non sembrano esserci subreddit direttamente legati a quanon. Però avete avuto la prova provata che la radio funziona, siamo riusciti, esatto, pure a chiamarvi, pure a interrompere la loro assemblea, fastidio, a dare fastidio, proprio il nostro stile. Vabbè. Questo era il programma di mercoledì sera, che è Zona Rossa, che sono telefonate moleste appunto alla gente ignara di tutto. Quindi grazie Unit, ricordiamo che Unit è la base di Radio ZM fondamentalmente. Le trasmettiamo ancora, mi pare, dal loro server. Esatto, assolutamente, sì, quindi tutto il bellissimo nome che vedete nel link che vi fa ascoltare la diretta è tutta opera loro, e c'è il sito, potete trovarlo comodamente, anche da lì trovate il link per la radio, e bello, dallo stesso dominio trasmette anche Radio Non Una di Meno, esatto, che in questo momento tra l'altro sta girando un podcast durante il lockdown, sì, perché hanno ripreso a mandare le repliche. Yeah. Va bene, allora vi ringraziamo tantissimi amici, il nostro nuovo stagista star, che l'abbiamo chiamato al telefono per mesi e mesi, ci ha sempre risposto, ora è qui con noi vivo in carne ed ossa e distanziamento sociale. Samuele, prego. Piacere a tutti. Vi farà la domanda di rito alla fine della telefonata. Che canzone volete che mettiamo? Se si è sentito, se no mi avvicino. Sì, non so, non vi sentiamo bene, potete urlare. Allora, la domanda è: che canzone volete che mettiamo? Scelta vostra, qualsiasi. Abbiamo una biblioteca di vinili sterminata. Abbiamo più o meno tutta la musica. C'è un gruppo che si chiama 10 cani che solo i ricchi si possono permettere. Ok, lo stiamo andando a cercare. E la canzone si chiama La vita in vigna. La vita in vigna. Scusami Dani, adesso vorrei sapere, dato che c'è un pochino più di intimità da mettere, tu come li hai scoperti? Non ci ringrazierete. Non vi ringrazieremo. Bello, bello, in stile Zona Rossa. Ci piace. È molto in stile Zona Rossa. Bellissimo. Va bene. Allora, vado a cercare il vinile. Esatto, va a cercare il vinile in libreria. Ce lo dobbiamo avere. Comunque. È lungo, deve andare un po' lontano, per cui possiamo parlare, se ci è riuscito a rispondere, senza che sia un problema. Cosa sta lavorando la Unit in questo momento? Di cosa abbiamo sul tavolo? Di cosa si parla stasera? Abbiamo cambiato l'infrastruttura telematica, abbiamo preso un server più grosso di prima. Che storia! Prima tante cose, tra cui alla radio appunto, e insomma ci siamo allargati e adesso dovremo lottare un po' per capire cosa farne. Quindi si brinda stasera un po'. Come? Si festeggia stasera, si brinda, è una novità questa o è successo tempo fa? No, è in corso. Bene. No, però l'abbiamo preso. Bene, complimenti. Comunque è incredibile. Stiamo in questo momento dibattendo su come fare la migrazione dal vecchio server a quello nuovo, che è un fatto che ci trasciniamo già da un mesetto e ci trascineremo per i prossimi. Io vorrei onestamente assistere a una delle riunioni di Unit per non capirci un cazzo. Cioè, per stare lì a dire scusa, non ho capito, scusa, ma questo come si fa? Ma quindi questo come si fa? E finirei probabilmente fustigato male. Molto in fretta. Ma c'è una considerazione che voglio fare. Mentre il comunismo è in ginocchio per la pandemia che esso stesso ha creato, l'auto-organizzazione è in continua crescita. Meraviglioso. Cioè, loro hanno il server più grosso in questo momento, in che tutto il resto, tutti che piangono. Oh, come facciamo? Abbiamo anche trovato il vinile di Cani Rari che solo i ricchi possono permettersi. Scusa, ci dà, volevi dirci qualcosa? No, è che effettivamente è un momento in cui le connessioni in tele, diciamo, aumentano di intensità e di importanza. E ci sembra il caso, insomma, dire, di sperimentare un po' di cose, in modo da non lasciarle. Uno dei grandi problemi, per esempio, è il fatto, per esempio, la teledidattica è stata ceduta in pieno dai soliti noti, perciò Google e Microsoft si sono immediatamente acchiappati la fetta di torta. E non manca qualunque riferimento all'uso dell'informatica libera, per esempio, del free software. Eh sì. Una cosa... che è un po' peccato, no? Un problema enorme, visto che no, ricordo che me ne hai parlato esattamente 3 mesi fa, quando ci siamo visti, che sei passato l'ultima volta qui della stessa cosa, quindi cosa su cui riflettere, ne riparleremo. Va bene, allora noi ringraziamo tutta la Unit che ha reso possibile la radio e grazie, che ci ha risposto stasera e si è fatta, insomma, dire, rompere le balle e gli altri tributi sessuali così a casaccio. Grazie mille. Adesso mandiamo il brano. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Buona assemblea. Ciao. Faccio partire. Vai, fai partire. E tra l'altro fa ridere perché dentro la Unit c'è anche mio cugino. Stasera stiamo chiamando tutta... Sto male. Tutto il giro della mia famiglia. Fantastico. Quindi abbiamo questa fantastica canzone. Ha un grande successo riprodotto in tutto il mondo. Ha un grande successo riprodotto in tutto il mondo. Ha un grande successo riprodotto in tutto il mondo. Sono andato a Sion, mi hanno detto vai a Chamozon. Sono andato a Chamozon, mi hanno detto torna a Sion. Sono andato a Sion, mi hanno detto vai a Chamozon. Sono andato a Chamozon, mi hanno detto torna a Sion. Una frazione minuscola di esseri viventi su questo pianeta utilizza una cosa che è il cervello. Vado a Fulì a cercare lavoro, arrivo a Fulì e trovo lavoro. Vado a Fulì a cercare lavoro, arrivo a Fulì e trovo lavoro. Ma il fatto è che anche in Svizzera non ho contratto. Ma il fatto è che anche in Svizzera non ho contratto. Allora cerco lavoro, dopo trovo lavoro, poi perdo lavoro, quindi sto senza lavoro. Cerco lavoro, dopo trovo lavoro, e se perdo lavoro, poi ritrovo lavoro. Ma sempre a 10 ore, tutto questo sudore, senza neanche firmare. Mi sa che torna già Marina che facevo il direttore. In cuor suo e fuori porto. Tutte quelle caratteristiche funzionali che noi normalmente associamo al nostro cervello sono presenti anche in esseri senza cervello. Senza wifi non mi incazzavo mai. Senza wifi non mi incazzavo mai. Senza wifi non mi incazzavo mai. Senza wifi non mi incazzavo mai. Dove vai con quei soldi? Siamo stanchi, ma in un'ora faccio 15 franchi. Stanchi, siamo stanchi, ma in un'ora faccio 15 franchi. Stanchi, siamo stanchi, ma in un'ora faccio 15 crampi. Allora smisto franchi, smisto tanti, smisto franchi, sono tanti. 15 crampi allora, 15 franchi allora, sono 15 crampi allora, 15 franchi allora, sono para, para, para, para. Para, para, para, francesi, para, para, para, siciliani, para, para, para, siamo in tanti, ma non ci sono svizzeri nei campi. Tanti, siamo in tanti, ma non ci sono svizzeri nei campi, no. Tranne il padrone, tranne il padrone, ogni cane ha un padrone, ogni padrone ha un cane, ogni cane ha un padrone, ogni padrone ha un cane, padrone ha un cane, padrone ha un cane. Queste dinamiche complicate, questa lotta di classe e di generazione. Bianchi in Svizzera nei campi in Svizzera, bianchi in Svizzera nei campi in Svizzera, bianchi in Svizzera nei campi in Svizzera, bianchi in Svizzera nei campi in Svizzera. Io sto senza pensieri, scrollare, scrollare, scrollare, scrollare, scrollare, scrollare. Quindi dopo la bellezza di questa traccia, noi ci addentriamo in quella che è la parte veramente più trash di tutta questa zona rossa, che è Cigo che ci racconta qualcosa. Allora, come dicevo adesso Guglielmo, ho trovato un subreddit molto carino, devo bellissimo, dire. Bellissimo, bellissimo. Che in pratica è formato soltanto da video e si chiama Watch People Die Inside. E sono tutti quei video dove la gente sta facendo qualcosa e poi succede qualcosa per cui ci rimane malissimo. Muore dentro. Ma no, malissimo. Sto male. E stavo facendo appunto vedere a Gulli un video di questo bambino che viene colto, come si dice, con le mani nella marmellata, invece con le mani nel gelato, perché sta rubando il gelato dal freezer. Se lo mangia con le mani e nel momento in cui viene ripreso piange come un bambino. Quindi mi immagino che Cigo da domani consumerà la batteria del suo telefono in tipo 45 minuti, perché continuerà a scrollarsi tutti questi video qua. Sì. È vero, divertente. Sono dei video che io amo, perché vedere gente che è triste, più triste di me. Che dici? È raro. Assolutamente sì. Essere felice per la tristezza altrui. Però devi ricordarti che se non parla il microfono in una radio diventa una voce fuori campo, un po' latente e fastidiosa. Un po' come Cigo, che è riuscito a dire un bambino piange come un bambino nella stessa frase. Sì, esatto. È una persona meravigliosa, un'esposizione chiara. Come piange tutto, un bambino. Tutto registrato, tranquillo. Esatto. Ed è uno che ha dato l'esame di radio, ma è stato bocciato. È stato bocciato. Abbiamo capito adesso come mai è stato bocciato. Cioè lui rimaneva assente a zona rossa perché doveva studiare per l'esame della radio e quindi ovviamente chiunque avrebbe pensato spaccherà. E invece... Comunque, scusate, saltiamo di palla in frasca, ma vogliamo fare una carrambata, dato che c'è qui la splendida autrice. Facciamo di... una carrambata, attenzione. Ginnastica per salire d'attesa. Pame parte pezzone, così. Parte pezzone. Ma possiamo avere un'anticipazione sulla prossima ginnastica per salire d'attesa? Allora, non possiamo, perché il mio coautore, nonché regista... Presente. In questo momento sta dedicandosi alle sue attività personali e quindi non abbiamo ancora fatto un punto della situazione, ma posso darvi un'anticipazione sulla, non la prossima, ma fra due, che sarà un'altra ospitata favolosa. Certo. E già riecheggiava questo nome in questa radio, mi sembra. Ah, e questo non lo so perché non ero attenta, devo dire la verità, ma... Ma avremo un esperto geografo. Ostia. Il quale ci parlerà di memoria nella ricomposizione, diciamo, delle società. No, ma io intendevo la prossima carta o il prossimo colpo in canna di ginnastica per stare d'attesa, che è una lei. Da Napoli. Ma non ancora. Non ancora. Ancora un attimo. Non vogliamo, diciamo, spoilerare. Prossimo giro. Si parla di Ludwig. Si parla in Giappone. Però aspettiamo ancora una minima. E invece le prossime due, per finire il primo ciclo. Diciamo che per la prossima mi stavo affidando a Piccarasi. Ma purtroppo in questo momento. Quale errore. Non è molto sul pezzo, ma adesso quando finite qui vi tirerò subito le orecchie. Bravo, brava. Come si tirano le orecchie, per fare una metafora alla Cigo, no? Esatto. Cioè, oddio, ho colpito come affondato. Come se fossero, cioè, delle orecchie. Gli tirerò le orecchie come se fossero delle orecchie. Ma infatti, penso che aprirò la finestra in questo momento, esatto, che è già aperta. No, no, no, c'è, no, la zanzariera. Ascolta, c'è la zanzariera, ci abbiamo messo sei per mesi, favore, per montarla. Non bello. Vale così tanto. Che bello. Giusto, le piante. Stai attento, dai. Va bene, va bene. Mentre qui ci sono le effusioni, giustamente, di affetto in confronti di quella fogna di cigognini. Noi andiamo a chiamare quella che potrebbe anche essere l'ultima chiamata, perché sono già due ore quasi. Buon appetito, cara. Ci vediamo più tardi. Ultima, ma sostanziosa. Esatto. Vediamo se ci risponde. Parleremo di Reddit anche con lui. Dai, poi andiamo a cercare antropologia su Reddit. Vediamo cosa succede. Ma è da un po' che non lo chiamiamo. No, vabbè, ma neanche da un po' che non lo sento. Ci ho pensato stamattina o ieri sera a sentire come cazzo stava sto qua. Dai, è possibile che non ci rispondi. Sono ancora in giro in vacanza. Oh, avevo paura. Quanto bene! Bellissimo. E altri rispondono così, è solo piacere. Bentornato su Radio ZM. Buonasera a tutti. Buonasera. Quando ho visto questo nome sul telefono, da una parte non potevo non rispondere, dall'altra avevo questo brutto presentimento. Ma come mai? Scusa, non capisco questa avversione per... Non te l'ha detto? Sono crollate tutte le pietre che avete portato, no, su. E gli ha distrutto, no, l'ha distrutto la casa. Non te l'ha detto? Ma a me l'ha chiamato, no, l'ha detto. Me l'ha detto. Allora, come va? Andrea, aspetta, scusate, c'è anche un altro compagno in zona rossa? Molto piacere, sono Cigo. Ciao Cigo. Lui è l'unico di cui puoi avere rispetto, davanti. C'è colpa di Lorenzo, di me sicuramente no. Ma allora, come va Andrea? Come stai da quel dì che non ci vediamo? È tanto, però fra poco mi sa che ci rivediamo. Proprio di sì, perché forse possiamo dirlo, noi ce ne freghiamo di piani. Andrea è uno dei super invitati del sabato, dell'evento, della giornata di sabato del Festival delle Brigate che si svolgerà a Milano il prossimo weekend, no, il 18-19-20. Prossimo ancora. Credo che sia la domenica, però, non il sabato, ma comunque... Bella storia. Ci sarai anche tu a parlare, ed è bellissimo. A questo punto te lo chiediamo sul serio. Il muretto è ancora lì, sta bene? Cinghiali allontanati, come va? Ma allora, sto bevendo il caffè. I cinghiali ci camminano sopra. Noi abbiamo fatto un muro talmente figo che per ora regge anche il peso dei cinghiali. Beh, non male. E questo ti permette di allontanarli un po' dalle tue preziose culture? Ma più che altro quel muro serve per non far scendere la montagna, in realtà, quando pioverà quest'inverno. Il cinghiale, quello, se ne sbatte completamente, passa dall'altra parte. Però per ora, anzi, adesso possiamo anche cantare vittoria, nel senso che la spesa al supermercato non sono mai andato a farla e l'orto è super mega rigoglioso e ho mangiato anche oggi. Sai quel sentimento d'invidia che ho inventato un nuovo piatto di pasta che era tipo sette tipi di cose diverse perché non avevo voglia di cucinare, ora ho buttato tutto in padella quello che avevo raccolto mezz'ora prima e è venuto fuori. Meraviglioso, quasi stupendo. Ma allora dai, ti facciamo introdurre il nostro nuovo fantastico compagno, il tema della serata. Allora, il tema della serata è Reddit. Cos'è, scusate? Reddit, che è un social news suddiviso in stanze per qualsiasi argomento. E in pratica gli utenti sotto nickname possono, come si dice, scrivere di tale argomento e gli ricevono risposte, valutazioni positive e negative, e c'è anche, forse... Scusami, perché nel frattempo stiamo cercando un telefono solo, ma non ce la facciamo. Eccolo qua. Prego, il caro. Il subreddit, quindi questa stanza che si chiama Antropologia. Antropologia. Ah, praticamente, la cosa funziona così, no? Questo è il social dei presi bene, per cui quella gente qui parla soltanto di interessi propri e si spiattella lì anni di lavoro, domande, impressioni, eccetera. C'è questo bellissimo gruppo che mi pare essere spagnolo, che parla di antropologia, discussioni sui temi di teoria e pratica antropologica, notizie e interessi in questo campo. E quindi ci sono, 200 milioni di post che parlano un bambino, è stato trovato un bambino del 1500... Cos'è? Ah, un bambino ha trovato in Svezia una spada di 1500 anni fa. E iniziano a parlare di questa cosa, cosa vuol dire in termini antropologici. È bellissimo. Poi Andre, fondamentalmente la nostra idea di puntata è anche chi non conosce Reddit, la domanda è: se tu facessi parte di questo forum, chiamiamolo così, qual è la prima parola che cercheresti? Ho cercato di capire che cos'è e ammetto che sto barando, nel senso che avevo il computer aperto, scritto Reddit, e la prima cosa che è uscita è Reddit Depression, non so, forse e non era la cosa coronavirus, che... però, non è la prima parola che mi hai messo, insomma, però adesso sono sul Reddit giusto, Reddit social media, questo qua, esatto. E la prima parola che cercherei, ma sai che... Ma sai che c'è un bellissimo gruppo che si chiama Ask Anthropology e quindi vuol dire che tu puoi chiedere delle cose agli antropologi e gli antropologi ti rispondono? In realtà prima di scrivere cercherei di capire, adesso so che sono noioso, ma cercherei di capire come funziona, perché non è molto intuitivo, forse sono io che non sono molto bravo. No, è vero, non tende a essere intuitivo perché si differisce da un Facebook qualsiasi che tentano di venderti un prodotto. Girano anche dei soldi su Reddit, però è molto più serio e quindi meno accessibile, mi viene da dire. Sì, io vedo che vabbè, c'è la grafica come piace a Gulli dal realismo sovietico. Oh, diciamolo, bella semplice. Poi sì, c'è la pubblicità, comunque questo big data di merda, comunque, quindi non è una roba... A me oltretutto mi dice di comprare la glucosamina, ma perché? Che cosa serve la glucosamina? Cosa, che malattia ciò? Che cosa dicono? Io vado a cercare, no, in base a quello che hai cercato sul telefono, quindi magari avrei cercato qualcosa per l'orto e la glucosamina. Può essere, pensavo. Comunque cosa cercherai? Sì, boh, non lo so, in realtà dovrei capire quanto è seria questa cosa. Se è molto seria, sì, potrei cercare boh, qualcosa legato alle robe che sto scrivendo, oppure cercare se qualcuno ha scritto un articolo che io non conosco su una tematica che mi interessa, come potrebbe essere, che ne so, comunitarismo, cose di questo tipo. Però sì, vedo che sono anche svariate lingue, cioè nello stesso momento. Ah sì, cioè, sì. Sono post, ma e poi io non ho un account, quindi posso vedere lo stesso le cose, sì. Ma è una figata, io sono rimasto scioccato perché a parte il fatto che abbiamo aperto la puntata e so che tu sei un grande fan dei nostri podcast, quindi andrai ad ascoltarla sicuramente. Abbiamo aperto la puntata con un post, boh, sarà stato tipo 4 pagine di uno che ha fatto uno studio serissimo, ma proprio con dati, orari, eccetera, di quanto si masturbava. Ha segnato tutte le volte che si è masturbato negli ultimi 2 anni. E ci ha fatto dei grafici, ha fatto delle interpretazioni, si è segnato tutto, cioè quanto tempo passava tra una cosa e l'altra, e lo ha descritto con un italiano perfetto, una descrizione accuratissima. Ma la cosa bella è che nei commenti la gente ammetteva la realtà, cioè ragazzi, hai fatto una ricerca tra le più serie che si vedono negli ultimi anni, sei un grande, tutti presi benissimo, fagli complimenti e chiedergli scusa, ma come hai fatto a interpretare questo dato, ma hai analizzato l'andamento della curva dei risultati per capire ulteriori di cose, cioè meraviglioso, meraviglioso. Beh, comunque mi viene da dire che c'è un sacco di gente che ha del tempo proprio da buttare. Stai diventando vecchio anche tu però, Andrea, una volta non avresti risposto così. No, è che in realtà c'è un sacco di cose da fare, ragazzi, cioè voi più di me in realtà, a parte questa trasmissione, però per il resto... Esatto. No, stavo guardando, sono molto distratto, lo ammetto, da questa cosa che mi avete fatto scoprire, perché sono un curioso. Ed è pochissimo in italiano, ma c'è roba in italiano. Ovviamente molto la prima cosa che ho trovato di antropologia sono i materiali didattici per i 24 crediti per l'insegnamento. Ah, cioè vedete, è il manuale per chi vuole essere insegnante di antropologia. No, perché adesso praticamente per entrare, ormai è finito, però per fare il concorso, quello famoso pubblico per la scuola pubblica, superiori, antropologia è una delle materie obbligatorie, quindi... se volevi potevi iscriverti a un'università privata, pagare del cash, farti 24 crediti, dare dei finti esatti, e però comunque qua credo tu ti possa scaricare tutti i testi. Se vuoi c'è anche un ragazzo che offre il link per scaricare 11 giga di suoni delle cascate, dei fiordi di Islanda, di campionamenti, cioè questo ha fatto un archivio audio e lo regala così. Beh, c'è anche un articolo che si chiama True Detective e l'antropologia filosofica tedesca. Ma che cazzo di articolo può essere? Hai visto True Detective? È caduto in scimmia anche lui, raga. Se inizia a leggersi le robe non esce più. Però non capisco in realtà come si fa. Cioè, nel senso, arriva, apro i post, poi cosa devo fare? Allora, i post sono solo testo foto, testo i link, testo i video, li leggi tutti e commenti. La cosa che serve è fargli la freccina su, la freccina giù, perché più freccina è su, più guadagna punti, più sale in visibilità. Ma basta, cioè, è condivisione di sapere, per cui tu puoi liberamente chiacchierare di argomenti con le persone, e se appunto hai il tempo, la possibilità di leggere, tendenzialmente stiamo cercando di capire anche con altri utenti di Reddit, è proprio, cioè la gente è presa bene, cioè è competente, parla ragion veduta, ti cita delle cose, è costruttiva, quindi non critica, non parliamo di cose serie, ci sono i fasci, se no cioè... Ma allora abbiamo trovato, sì, certo, il nostro Cico che è un cane da caccia di fasci, ha trovato il gruppo come How to Destroy Alt-Right, no? Com'è che era? Fuck Alt-Right. Era tipo c'è un gruppo degli Antifa. Adesso lo cerco subito. Un bel po' di... cioè, qualcosa Antifa c'è. Però, per esempio, prima abbiamo chiamato degli amici che ci hanno detto: provate a vedere se c'è qualcuno che è di QAnon, questo gruppo di complottisti che ha fatto il corteo in Germania. Se hai sentito, 40.000 persone, nazisti, fricchettoni tutti assieme, eccetera. In realtà, non c'è un gruppo, una stanza che parla soltanto di quello. Io ho trovato già Giovanni Futurismo, che è di casa Pound. Babbia. E vabbè, sì, ci sono, ovviamente. Ci sarà anche Salvini, immagino. Salvini magari no. Stai proprio scrivendo Salvini? No, io al momento ho scritto Casa Pound, però vabbè, diciamo che non abbiamo mai brillato per puntate estremamente interessanti per gli ascoltatori, ma forse oggi stiamo toccando il fondo, colpa mia, cioè nel senso che vi dico cosa scrivo, cosa no, ma in realtà guarda che è bellissimo, perché questa è radio realtà e informazione e, come si dice, analisi investigativa. Cioè, stiamo analizzando la realtà in tempo reale, bellissimo. Ah sì, c'è un Salvini, l'aggiusta tutto. Ma no. Sì, penso che fondamentalmente nel momento in cui c'è già di base la pubblicità, vuol dire che tendenzialmente fa poche o quasi nessun selezione all'ingresso. Nel senso Matteo che Salvini fit Claudio Bisio, questo quasi lo clicco. Vedi, però con Andrea è divertente anche vedere cosa sta facendo il computer, è fantastico. Ah, ma senti, ma invece quella disgraziata di Gaia che ti sopporta dov'è? Che sta facendo? Gaia è a Milano in questo momento. Ah, è qui in zona? È lì in zona da voi. Io sono a casa a godermela. Oggi, stasera, mi sono fatto il bagno con la pioggia, che è una cosa che amo particolarmente. Forse si rischia la vita per i fulmini, però sì. È molto bello. Sì, sì, beh, lì hai zone collinari intorno che ti dovrebbero difendere, teoricamente. Sì, esatto. Matteo Salvini, so sexy. Anche questo è un bel posto. Vabbè, c'è un pacco di roba comunque. Sì, no, però... è veramente infinito. C'è sì, un pacco di roba e un pacco di gente. Sì. Vabbè, tedeschi. Dai, è bellissimo. Qui vedo un Casa Pound con zero membri. Casa Pound, un gruppo subreddit, zero membri. Ah, comunità privata. Ah, vedi, è privata, non posso. Magari se entro, come abbiamo Conradi, magari... No, ho cercato a livello americano, tipo alt-right, cose simili, e non c'è nulla. Non c'è nulla con pro alt-right. Esatto. Anzi, ma... c'è tipo fuck the alt-right, c'è un alt-right brainwashing per gruppi di sostegno a chi ha familiari a cui hanno fatto il lavaggio del cervello, talk radio e robe simili. Che figata. Sì, sì, sì, molto, molto carino. Da sto punto di vista molto carino. Bello, bello, bello. Va bene, Andrea, ma allora, non so, vogliamo già dirci che musica ci proponi per stasera? Ho una domanda prima. Vai, ma da certo. Quanti anni esiste questa cosa? Io mi sono informato poco fa e da 15 anni. Infatti, perché stavo vedendo post di roba che invece mi interessa di 5 anni fa. E vogliamo sapere di cosa ti interessa. Ma stavo guardando un libro che ha scritto un amico... proprio ho scritto le robe varie su quelli che ci stanno antipatici, cioè fascisti. E il mio amico ha scritto questo libro, cioè il mio amico, un compagno, che ha scritto Il barometro segna tempesta, le schiere nere contro il nazismo, e c'è un tipo che ha postato, forse lui addirittura, chissà perché. Però sì, c'è, cioè sì, questo qua è un tipo che posta tutta roba interessante. Bene, bello, bene, figo. Il voto inutile, i lavoratori sono sotto scacco della Confindustria. Vabbè, bello. Sì, questo ci sta bello, bello. Ma invece veniamo ad altre cose invece più serie. Noi adesso dovremo elaborare, Lorenzo, come fare questo programma per obbligarti a rispondere al telefono, promettendoti che questa volta insieme a Lorenzo verremo lì a costruirti il capanno degli attrezzi. Bisogna andare avanti con la vita, bisogna fare un secondo ciclo qua, perché sennò non ci si può mai fermare. Ci pensiamo, ti minacceremo in altre maniere orrende e verremo a disturbare le tue serate comode. Molto bene. Va bene. Dai, cosa vuoi ascoltare allora? Cosa ho ascoltato stamattina? La regola era che vi dicevo cosa avevo ascoltato stamattina. Sempre. No, stamattina oddio, però... non ti ricordi, oh no. Quanto lockdown. No, perché devi sapere, Andre, che adesso io e Gulli non viviamo più insieme. Già. Sì, la coppia si è sciolta, sì. Siete lasciati. Sì, io l'ho lasciato per un cantiere in Toscana, che era molto più sensuale di lui perché mi pagava da vivere. Io invece per una delle emittenti più capitaliste del mondo, che è Sky. Quindi siamo messi bene tutte e due, no? Giusto. Esatto. Ma quindi sei in Toscana a lavorare? Sì, sono in Toscana a lavorare 2 settimane al mese più o meno. Ma sempre che ti sfruttano o ti trattano bene? No, ho trattato benissimo, insieme ad amici che mi sfamano, mi nutrono, mi portano in giro, fanno vedere la Toscana, no, è bello. Come faccio con Hank? Esatto, esattamente, sono l'Hank di qualcuno, ma non sono così carino e non mi fai nemmeno così tante foto, dobbiamo essere sinceri. Vabbè, vi giro il pezzo. Stamattina ho anche guardato la playlist, quindi sono onesto. La prima cosa che ho sentito è Pressure Drop. Bellissimo. Ok, perfetto. Prova a vedere se non c'è già al volo. C'è già. Perché qua nei dischi, esatto. Più vicini, nei preferiti. No, però forse ho detto una cazzata. Devo andare nella stanza di là. Caro mio, però non fare come tuo compagno Maggio, che ha un conflitto con l'inglese. Pressure non si scrive così, si scrive pressure. Pressure. Perché Maggio ha un mega, ha scritto pressus plastic. Vabbè, c'è un volantino che sta correggendo il buon compagno Maggio e insomma non aveva capito molto bene la spelling di precious. Vado di là e prendo il disco. Esatto, sto andando a prendere il disco mentre noi parliamo ancora un pochino. Quindi come lo vedi questo dibattito a tre per il Festival delle Brigate? Questo dibattito a tre? No, ma io non so, non sono così preparato, non so niente. Ah, non te l'hanno ancora detto. Allora come vedi questo dibattito sul oddio, non mi viene la parola. In inglese? No, nemmeno. Sulla costruzione di comunità, sul mutualismo. Ecco. Sul mutualismo? Beh, è uno degli argomenti che più mi anima e interessa. Cioè, in realtà mi interessava moltissimo, per ovvi motivi, il tema, il panel sull'abitare la città. Perché forse sono anche un po' più preparato che sul mutualismo, a livello proprio antropologico, intendo. Però purtroppo io sabato mi sa che non ce la faccio ad arrivare se prima delle 6, tipo 7 o cose così, quindi sono fuori dai giochi probabilmente. Adesso sto cercando di capire, mentre la domenica appunto posso esserci dalla mattina. Poi non so niente di come sono organizzate, anzi magari poi uscirà qualcosa, me lo direte. Cioè, non so se si fanno la mattina, quanto durano il pomeriggio, la sera. Faremo sapere assolutamente in frettissima. Ma a questo punto io ti chiedo una cosa impossibile come sempre, cioè di condensare in poco tempo una domanda immensa. Ma tu che sei antropologo di esseri umani, un po' ne hai studiato, ma quindi gli esseri umani, cioè, sono collaborativi o no? Allora, Kropotkin direbbe di sì, cioè tutto il saggio sul mutuo appoggio dice che i nostri geni sono fatti per collaborare. Io, anche se mi piace molto Kropotkin, non sono del tutto d'accordo. Io credo che l'uomo in natura non è né cooperativo, né lupo, né aggressivo. L'uomo in natura si deve costruire a seconda di quello che crea con le persone che frequenta. Quindi se frequenterà Gulli probabilmente sarà verticista, antipatico e cose varie. Se tutto invece vero, frequenterà qualcuno di macho, sarà per il mutualismo, la cooperazione, l'orizzontalità. Sto scherzando, Gulli. No, il capanno degli attrezzi te lo fai costruire da Massimiliano, non c'è problema. Che caldo! Vengono lui e qua presenta Lorenzo. Chiacchierate d'amore, parlate di quello che volete. No, ma non siamo permalosi qua in collettivo, ma quando mai? Comunque ho trovato il vinile. Fantastico. Bella storia. Carissimo. Sei simpaticissimo. Grazie. Quando sto zitto sono molto simpatico. Ci siamo fatti un sacco di risate quando siete venuti a trovare. Davvero, sono venuti a trovare ancora con Giulio. Va bene, carissimo, grazie mille. Grazie che hai risposto. Com'è? A posto il dottor Giulio. Il dottor Giulio si sta sbattendo, sta andando in giro a cercare una sbarra esagonale di ferro che ci serve per fare un progetto, ed è proprio il perno centrale che muove dei macchinari, senza quello siamo fritti. Però si sta sbattendo e lo sta cercando. Io lo troverà in questo momento col frontale che gira per Grattosoglio. Esatto. Alla ricerca di questa cosa. Esattamente, proprio così. Va bene, caro, buona serata, ci risentiremo presto. Ciao Andre, grazie. Ciao. E partiamo con sto traccione pezzo mattutino. Pezzo della Madonna, e raga. Via, ci è sentiamo bellissimo. Fra pochissimo. È l'allegria fatta musica, sto pezzo. fresca qua, oh fresca, oh yeah fresca, quando ci appaglio, oh sì, I really drops, oh you got feeling fresca, fresca, fresca, fresca, fresca, drop, oh fresca, fresca, fresca, fresca, fresca. Intanto siamo arrivati a delle temperature illegali praticamente. E che dire, che dire? Sì, fa freschino adesso. 21:08, spacchiamo i minuti, sforiamo un pochino, ma ci piace così. È giusto così. Tempi d'oro 11:15, mezzanotte e mezza. Ma quindi, dato che siamo un pochino in chiusura, Cigo, cosa abbiamo imparato stasera? Stasera abbiamo imparato a conoscere una bella alternativa ai social tradizionali, diciamo. Un posto molto colorato, divertente e divertito. Sì, sì, sì, sì. Molto bello, molto bello. Beh, io sicuramente farò Reddit in questi giorni. Io me lo son fatto durante la puntata. Questo è poco ma sicuro. Sì, devo capire cosa tagliare, se Instagram o Facebook, perché sennò non si può andare avanti così. Taglia Facebook. Ma sai che essendo io una persona di merda, avevo quasi paura di parlare di Reddit perché è troppo bello, non volevo che si rovinasse. Poi ho detto, vabbè, Guglielmo, ripigliati, faccela e parliamo di Reddit. Però è così bello, c'è così tanto calore di queste persone tutte prese bene che dietro il loro schermo ti dicono, non volevi essere un aiuto alla divulgazione totale. Esatto. Perché ormai abbiamo capito, purtroppo, certo, i fenomeni di massa vanno sempre a distruggere un po' il fondamento su radicale. Su quello delle cose. Mi trovi totalmente d'accordo. Direi che comunque è già di massa. Sì, tipo beh, direi che è la seconda applicazione più scaricata negli Stati Uniti d'America. Ma veramente? Vabbè, sì, ma negli Stati Uniti d'America, cioè, in top cazzo. 5 sicuro, picchiava veramente i pazzi. Vabbè, allora direi che la mia preoccupazione è inutile. Bene, bene. Come zona rossa è giusto così, secondo me. Come ci noi preoccupiamo siamo di cose inutili, noi esatto. siamo inutili. Esatto. Quindi vi ringraziamo, sperando che sia l'inizio di una bella stagione autunnale. Sì. Sicuramente ci studieremo altre cose per rompervi tutto quello che avete da rompere. Esatto. Mi raccomando, scaricate, ripeto, scaricate i podcast perché si possono scaricare. Non so sì, se è bello. E teneteveli per sempre. Io, se fossi in voi, sai cosa farei? Prenderei i podcast e li metterei sul computer, inizierei a tagliuzzarli e rincollarli in modo che Gulli faccia un discorso di senso. Cazzo, per esempio, sarebbe un'esperienza. Sarebbe un'esperienza. Non so chi YouTube si potrebbe prodigare in questa cosa qua, però sicuramente folle più folle di noi. Sicuramente usciranno delle pilloline che stiamo già editando di nascosto di notte quando la gente non ci guarda. Tanto io ho ancora in qualche quaderno segnati i minutaggi delle frasi da salvare, esatto, di alcune esatto, situazioni, esatto. Sì. Per poi avere il tasto, non poi, so, della butti. Io direi che in questo momento obblighiamo Cigo a riprendere le redini di Instagram e quantomeno darsi una mossa, vedi, perché tu, tanto non sto facendo un cazzo. Cosa che stai facendo nella vita? Niente, adesso? Niente. Ah, perché quello è fare qualcosa d'altro. In teoria. Dai, e nel tempo libero? Silenzio, intanto All Green dobbiamo, sotto dobbiamo, di noi. Dobbiamo tornare al discorso iniziale da cui è partito tutto. No, allora ti lascio il lusso di scegliere la canzone di chiusura. Vai. Assolutamente. Vai, Cigo, io questa la dedico a Pica, vedo la duettata con lui. Oh ma mio Dio. Quindi non succederà più. Claudia Mori, Adriano Celentano. Cos'è forse sta roba? Potrebbe essere già scaricata. Oh Madonna santa. Potrebbe. Non si scaricano le canzoni. Oh in questa Madonna radio. Santa. Hai già in tra le preferite. Ma è una compagna di grande valore. Gente, passatele un microfono, ciao, per favore. Raga. Chi siete? Ciao raga, chi siete? Lo dice lei alla radio per parlare con voi, ma è giusto, è giusto. Tutti quelli che stanno ascoltando, che ciao, saranno Alessia. Tipo 80.000 persone. Come ciao, stai? Ti voglio bene. Anche noi, Alessia. Vuoi salutare qualcuno a casa? No. Ok, perfetto. No. Perfetto. Andate a stendervi da qualche parte e fatevi schiacciare, probabilmente. Vabbè, intanto siamo... vado a cercare la canzone che mi ha chiesto Cigo. Intrattenete. Parliamo con Alessia allora. No, Alessia ci vuole chiedere qualcosa. Cosa ci vuoi chiedere? Chiedi ai microfoni di Radio Z Time. Volevo volete cenare? Sì. Perché cosa ci si propina? In realtà non c'è niente, volete ordinare la pizza? No, io mangio fuori. Vai, io va non bene. Ci sono. Mangio a casa la pasta. Io la pizza, va bene. Solo con me la ordinate. Perfetto, allora siamo di te per una pizza adesso. Solo con me la ordinate. Fantastico, allora sanno tutti quanti, sanno che io adesso ci mangiamo una pizza dopo trasmissione, yo! Bene, in questo momento abbiamo trovato il vinile perché era qua dietro, dato che l'abbiamo messo a... l'evento zero della Trash Zam, che oggi è venuta inaugurata con il contratto firmato per una volta settimana, scritto da Guglielmo, esatto, by Koki e la Nikki, organizzatrici, forever, con un po' di supporto tecnico anche dai più anziani. Io penso che faccia saltare in aria le, non so, qualcosa. Ma invece è molto divertente, invece esplode. Guarda, tu concentrati. Sparo. Bene, tu e pensa che la traccia che stiamo per mettere l'abbiamo cantata Santo io e lui. A squadra Marcia gola. Buonanotte a tutti, Manzana Rossa la finisce qui, ciao. Ultima ora, fondamentalmente ci ha scritto Chiara, già, anzi ci ha scritto la Koki che Chiara è sparita, quindi seguiranno aggiornamenti prossimamente. Ma mi ci vedi così, a dirti sempre di sì, sei stata, lo sei sempre, lo sarai. La donna che ho voluto e che vorrei. Succederà più che torno alle tre e tu ti addormenti senza me. Succederà più d'amore che ho donato tanto. Guardarmi intorno se notte, se giorno. Succederà più che dico di sì per farti contento.